Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. Carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Ludico Forum, l'appuntamento del venerdì che insomma facciamo sempre quando dobbiamo fare Ludico Forum, ovviamente. Vabbè, scusate ma ero distratto da mille luci, adesso torna tutto a posto, quindi bentornati e bentornato anche ad Alex Raccuglia. Ciao a tutti, buonasera a tutti i nostri teleascoltatori. Bacini, bacini, baciotti, picciu, picciu, picciu. Ad Alex non gli ho fatto la musichetta perché Alex Raccuglia è il mio coproduttore di questa trasmissione, che ricordiamo sempre che facciamo insieme a tutto il nostro amico team, che è il, insomma, più o meno il gruppo con cui facciamo le altre trasmissioni, ossia praticamente ricordiamo videoludica, dietrologia videoludica a suo tempo, insomma. E ringrazio ovviamente anche è ritornato dopo tantissimo tempo, è qui con noi perché il tema lo richiede, Simone Cusella. Ma salve, ciao a tutti. Ti si sente una schifezza, ma a noi va bene uguale, perché in fondo in realtà a volte ci sono delle situazioni di emergenza. Meglio così. Esatto, soprattutto quando ci sono gli inviati sul campo di battaglia, che purtroppo anche i grandi broadcast hanno avuto questi problemi, perché non possiamo averceli anche noi. Ringraziamo. Sì, però i grandi broadcast quando gli succede dopo licenziano le guselle. il gusellume e la gusellaggine. Ringraziamo anche Marco Gualdi, Carlo Burigana che ci ha fatto ovviamente gli assets audio, Francesco Di Muro, Carmine Puccio Console, che dovrebbe esserci questa sera ma sicuramente avrà dei problemi, e Carlo Sant'Agostino che verrà più tardi perché ha da fare, ma c'è anche Walter Sbano. In questa puntata specifica però abbiamo anche un ospite che è extra rispetto al team, ma che tornerà diverse volte, perché come abbiamo detto su Ludico Forum parleremo sì forse di intrattenimento, di videogiochi, ma parleremo anche di cose che sono più a largo campo, diciamo, e quindi abbiamo Roberto Marin. Ciao Roberto. Ciao a tutti, sono veramente felicissimo e contento di essere qua tra di voi, sono emozionato, come sentite dalla mia voce, veramente al vostro cospetto, sono davvero felice di essere qua su Ludico Forum. Adesso ce la raccontiamo un po', che qui di roba da raccontare ce n'è tanta. Per un bel pezzo ce n'è tanta, sì. Allora ringraziamo Roberto, ricordiamo Snap, architettura architettura imperfetta, che è il suo podcast che trovate su Spreaker sotto Runtime Radio, un podcast che da poco ha anche ottenuto un certo risultato, ha superato i 20.000 download, che non è mai insomma una cosa da sottovalutare. Seguitelo, cercatelo su Spreaker, cliccate sul pulsantino del feed, abbonatevi e ascoltate, perché per quanto possa essere verticale rispetto all'archeologia, sì, dai, all'architettura, ma comunque parla anche di tecnologia e di cose annesse e connesse, giusto Roberto? Esattamente, diciamo che questo podcast unisce l'architettura e la tecnologia informatica, perché ormai al giorno d'oggi gli architetti non possono più evitare di confrontarsi con quello che succede nel mondo informatico. Io cerco un po' di fare da ponte tra quello che è la vecchia professione dell'architetto, che diciamo una volta disegnava a mano, qua vicino disegnava col CAD, e adesso stiamo cambiando marcia. Io sto cercando di portare gli architetti che ascoltano il podcast Snap Architettura Imperfetta verso il futuro molto particolare, che in questo caso, nella fattispecie di questa puntata, ha un punto di giunzione con Unreal Engine, che è il tema portante di questa bellissima puntata a più voci, e quindi potrò dire anche la mia sul tema architettura e compagnia briscola. E infatti sei qui per questo, mi è venuto un po' da sorridere, perché quando tu hai detto una volta si disegnava a mano, poi si disegnava col CAD, e poi ho detto ma adesso si disegna con la mente, chiaramente, perché insomma potrebbe anche succedere questo, però sarebbe stato carino, perché poi rievoca un film Forbidden Planet che abbiamo rivisto recentemente. recentemente con Michela, insomma, bellissimo. Capolavorone, mamma che bello. Ne parleremo la prossima settimana in una puntata speciale di archeologia informatica dedicata ovviamente ai computers e il cinema. Quindi la storia dei computer all'interno del cinema sarà una cosa divertente. Alex, se vuoi puoi partecipare, puoi essere dei nostri. Alex, invece diciamo che c'è anche una novità social a questo punto, perché Runtime arriva con calma e per favore, ma arriva. Beh sì, effettivamente con l'inizio del nuovo anno una social media manager di mia conoscenza che gestisce di vari account mi ha detto: Alex, anzi mi ha detto Ale, visto che lei non usa la X, se vuoi gestisco anche il profilo Instagram di Runtime Radio. E io e Simone ci siamo detti: sì, figata, qualcuno a cui sbolognare questa patatona che non è neanche bollente, praticamente è una patata secca. Morta, una patata, esatto. Esatto, una patata di quelle che ha fatto tutte le gemme. E di conseguenza state a corti, perché nei prossimi giorni inizieremo a essere pedanti e pedissequi, anche insomma romperemo le palle anche su Instagram, e ovviamente vi daremo tutte le indicazioni su come seguirci, come followarci, eccetera eccetera eccetera eccetera, fino a quando faremo anche una diretta su Instagram. Via. Perfetto. Simone, invece tu hai un sacco di tempo che manchi dai podcast, perché mi hanno detto che fatturi milioni di dollari al giorno, giustamente. Al minuto. Scusa, no. Hai ragione. Fai qualche donazione al Runtime allora a questo punto. Ovviamente no. Me li tengo tutti io, vaffanculo, hai ragione. Ma soprattutto donati un microfono decente, l'asta ce l'hai già. Allora, il problema è che sia l'asta che il microfono se l'è presi Cesare, perché lui li voleva assolutamente e questo è il risultato, insomma. Vabbè. No, perché poi non ci vediamo da 3 mesi, quindi. Ho capito. Va bene, no, ecco il tema della puntata, ragazzi. Numero di poligoni, global illumination, texture in alta risoluzione, fotorealismo, ray tracing in tempo reale. Tutti termini entrati a far parte del linguaggio comune del gamer e dell'appassionato dell'intrattenimento digitale e interattivo. Oggi i motori 3D real time muovono una quantità di informazioni e dettagli che una volta solo i computer più potenti riuscivano ad elaborare dopo ore e ore di rendering. Ma tutta questa qualità e velocità a che serve? In questo episodio affronteremo un viaggio all'interno degli usi non necessariamente ludici della Real Engine, tra architettura, cinema e TV, simulazione, sviluppo applicativo di vario genere e virtualizzazione o realtà aumentata. Una discussione e un'analisi attenta con Alex Raccuglia, Simone Gusella, Roberto Marin e Carlo Sant'Agostino. La domanda è lecita: a che serve tutto questo? Ce lo domandiamo sempre, a cui protesta, a chi giova? Io inizierei proprio da Simone, anche se chiaramente il collegamento da Baghdad, insomma, è quello che può fare, però insomma è importante iniziare da Baghdad, tanto che abbiamo parlato delle nuove generazioni di console che sono arrivate, le nuove schede 3080 di Nvidia, che insomma alla fine sembra che spacchino e costano comunque tantissimo. La prima cosa di cui vogliamo parlare, un secondo, anche se è attinente fino a un certo punto, è questa cosa che va molto per la maggiore in questo periodo, ossia praticamente tutto il discorso degli effetti illuminazione, del ray tracing in tempo reale, che una volta ci sognavamo, e perché sono così perché questa situazione sta creando così tanto clamore, secondo te, Simone? Sta creando clamore perché tutta la tecnica del ray tracing fino a molto tempo fa era utilizzata solo dai cosiddetti motori di render offline, ovvero quelli che ti fanno un'immagine al minuto o minimo anche magari un'ora per rendere architettonici, e da un paio d'anni Nvidia è riuscito a portare questa tecnologia dentro i videogiochi al grande pubblico. C'era già la tecnologia nei videogiochi, robe sperimentali, ma niente di realmente, diciamo, vendibile, soprattutto tramite sede video, perché c'è un'enorme differenza tra i motori di render real time e quelli offline, perché nel real time si adottano un sacco di barbatrucchi per far fingere, insomma, per fingere determinati comportamenti dell'illuminazione. E Nvidia è riuscita a trovare una soluzione dei problemi di performance, tant'è che ha dovuto addirittura inventare dei processori completamente nuovi per le proprie schede video. Non a caso dalla serie 2000 le schede video non sono più GTX ma RTX, per sottolineare l'avvento del ray tracing all'interno dei giochi. E che cos'è questo ray tracing? Lo dice la parola stessa in inglese, però il tracciamento del raggio luminoso. Praticamente si tenta di, molto molto vagamente, di replicare la propagazione della luce all'interno di un ambiente. Nella realtà le fonti luminose spediscono in giro milioni di raggi luminosi, i quali rimbalzano migliaia di volte contro gli oggetti, vanno in giro a caso, illuminano gli oggetti, e alcuni di questi raggi colpiscono i nostri occhi, la retina o il sensore della fotocamera, la pellicola, eccetera eccetera. Fare questo in un motore di rendering sarebbe follia pura, cioè significherebbe moltiplicare i tempi di rendering per 100 almeno, senza assoluta differenza con le tecnologie che abbiamo adottato. E nei motori di rendering si fa il processo inverso, ovvero la luce, il raggio di luce viene proiettato direttamente dalla camera virtuale, viene fatto rialzare un numero X di volte. Questo numero X dipende dalla bontà del motore di rendering, dalle impostazioni che l'utente sceglie, e poi viene collegata alla fonte luminosa. In questo modo si eliminano un sacco di calcoli inutili che non potrebbero contribuire alla scena. E il ray tracing è proprio qui che entra in scena, ovvero quell'X numero di rimbalzi, è proprio questa la parola chiave. Già da un po' di anni nei videogiochi c'è la cosiddetta Global Illumination, che è una sorta comunque di ray tracing non super evoluta, ma comunque è una forma di ray tracing che permette di tenere traccia dei vari rimbalzi che fa la luce tra la fonte di il raggio luminoso che fa tra la luce e la camera, tenendo anche in considerazione la direzione dei materiali con cui interagisce. Quindi per esempio se passa attraverso un vetro, se rimbalza su un legno o su un metallo cromato, il ray tracing è in grado di aggiungere informazioni ad ogni rimbalzo e arricchire sempre di più l'illuminazione della scena. E questa è veramente una bella cosa nei giochi, perché graficamente il salto di qualità è veramente notevole. Finalmente ci sono dei vetri realistici che vengono ottenuti non semplicemente con il barbatrucco della trasparenza, come viene fatto spesso anche tuttora. La trasparenza è in realtà una proprietà che non esiste, è stata inventata puramente per scopi di performance, ma attraverso la rifrazione, perché la luce attraverso un vetro viene sparpagliata in giro come la copertina del Side of the Moon classica, tutti penso la conosciamo, che c'è il raggio di luce che entra in questo prisma e viene suddivisa nelle varie componenti cromatiche. Diciamo non è proprio la stessa cosa, ma il concetto è quello, ovvero la luce viene sparpagliata. Bene. E a livello non solo grafico, questo è comunque un passo in avanti, perché tanti dicono sì, va bene, la grafica per carità migliora tutto quanto, però alla fine cosa cambia? Il lato grafico fa niente, cioè fai vedere che hai la scheda video super figa, fai vedere a tutti i tuoi effetti. Vabbè, l'impatto visivo, voglio dire, alla fine c'ha la sua influenza, che l'ha sempre avuta nella storia del videogioco. Poi chiaramente non è tutto, però insomma a volte può anche. Intanto salutiamo che ci ha raggiunto Oh, scusate, ho sbagliato pulsante. Carlo Sant'Agostino. Ciao, ciao a tutti. Ce ciao 2020. Ciao. Scusate il ritardo, ma ho chiesto al Frassino, ma non mi ha fatto passare. Hai ragione. Ciao 2020, vi ricordo che c'è stata questa diretta tra Carlo Sant'Agostino e Michela, c'ero anch'io ovviamente, che ha sbancato, cioè download a manetta, incredibile, ci fa veramente piacere, quindi andate a cercare la puntata di Everything. Ciao ciao 2020, è stata molto carina, abbiamo parlato di questa cosa qui. Senti Simone, tornando a noi, che differenza, cioè comunque, nonostante appunto tutti i sistemi, le tecniche, l'evoluzione che c'è stata, quanta differenza c'è adesso, se è più marginale rispetto a prima o se ancora c'è, tra il rendering in tempo reale del ray tracing e tutti questi effetti fotorealistici di luce, con il rendering, insomma, quello più tradizionale, quello non in tempo reale? La differenza è ancora tanta, perché comunque il fatto di non dover dipendere dalle performance real time nei motori di rendering, diciamo, cinematografici, puoi permetterti di avere più rimbalzi, puoi avere un'illuminazione più soffusa, puoi avere più fonti di luce, perché viene da sé che quando devi collegare migliaia di raggi luminosi a una fonte, più ci sono fonti, più ci sono raggi da calcolare. Vabbè, certo. Chiaramente ci sono anche più ombre, insomma, vengono fuori un sacco di calcoli. Però queste tecnologie hanno ridotto i tempi di rendering? In generale? Beh, sì, perché comunque già da anni c'era una tendenza ad usare sempre più le schede video per il rendering. Prima invece si viaggiava di CPU, che ha pochi core, però diciamo sono molto cazzuti, sono molto ottimizzati per i calcoli, puramente numerici. Le schede video, diciamo, sono nate per compiti puramente grafici, però con l'evolversi, oppure per farmare, diciamo, Bitcoin, grazie... Come, scusa? Oppure per farmare i Bitcoin, però vabbè. Anche, beh, quello è una conseguenza in realtà. Okay. Poi ci arriviamo anche lì. Oltrepassare una serie di limiti tecnologici, le schede video hanno preso una strada che le hanno portate a diventare sempre più importanti e a diventare più importanti anche proprio in questi calcoli numerici, che una volta erano puramente affidati alla CPU, invece oggi vengono affidati tantissimo alle schede video, perché hanno migliaia di processori contro poche decine al massimo delle CPU. Il Bitcoin, per esempio, è un'ottima applicazione, perché consente di fare un sacco di calcoli in parallelo e velocizza molto la ricerca, i risultati di questi calcoli. Ok, Alex, ragazzi, a voi per esempio, anche Roberto, se al di là dei vostri temi specifici, se questo avvento, diciamo così, del ray tracing in maniera più massiccia va cambiato in qualche maniera la vita della vostra professione. Roberto, inizia. Io dormo sicuramente meglio. No, allora, vorrei aggiungere una cosa. Simone è stato molto tecnico, come è giusto che sia, perché lui è un tecnuomo. Tecnico, certo. La realtà è che quando si parla di grafica, di visualizzazione, c'è sempre un modo giusto, un modo corretto di fare le cose, e poi ci sono un sacco di modi sporchi che sono quelli che servono per velocizzare i calcoli. Quando io studiai il motore di Doom per capire come funzionava il texture mapping, che allora era semplicemente un texture mapping senza il filtro bilineare, senza il MIP mapping e tutte queste cose qua, il paper che avevo trovato su internet, stiamo parlando dei primi anni 2000, anzi no, gli ultimi anni 90, diceva essenzialmente che c'è un solo modo per fare il texture mapping giusto, però è computazionalmente molto lungo, per cui ci sono un sacco di escamotage che fanno dei risultati che sono una più che buona approssimazione del risultato corretto, che però impiegano un decimo, un centesimo del tempo. Quello si parlava ovviamente di una volta di milioni di anni fa dal punto di vista tecnologico, però essenzialmente il concetto è lo stesso ed è interessante che appunto si punti ad arrivare al risultato migliore, quanto migliore possibile, che possa essere renderizzato in una frazione di secondo, tipo un trentesimo, un sessantesimo per videogiocare, ma anche al cinema si sfruttano questi trucchi, perché se uno dovesse fare sempre il rendering corretto di ogni singolo fotogramma saremmo ancora qui ad aspettare di vedere episodio 1 di Guerre Stellari. In realtà la componente tecnica dei technical director degli effetti speciali è proprio quella, cioè andare a capire dove andare a fregare lo spettatore in modo da ridurre quanto più possibile nei tempi consentibili il rendering delle scene degli effetti speciali. Ma questo vale un po' dappertutto, anche Roberto sicuramente quando costruisce le case mette le cose un po' a cazzo per finirle, no? Non solo io, anche i muratori. No, lui sicuramente metteva meno vetri per il problema del rendering, cioè non voleva ray tracing, metteva meno vetri, così almeno. Esattamente, non li metto proprio, faccio finta che ci siano. Esatto, che è bellissima sta cosa. Questo è il vetro iper sottile, è sottile un micron, guardi è talmente sottile che ci si può passare attraverso. Passa un po' di freddo, ma un dettaglio. Ok. Beh, comunque, dai. Dalla mia parte architettonica posso dirvi questo: il ray tracing ha fatto veramente incredibili passi in avanti per quanto riguarda il realismo dell'immagine. Però dal mio punto di vista personale di professionista devo dire che del ray tracing e delle sue grandissime qualità di renderizzazione, o perlomeno di resa, che è meglio, mi interessa fino a un certo punto, e vi spiego anche perché. Il perché deriva dal fatto che l'utilizzo di un software di rendering in real time, che non per forza deve essere collegato al ray tracing, permette di avere dei risultati molto validi in poco tempo. Questo cosa vuol dire dal punto di vista professionale? Che io non devo stare sopra a, che ne so, per il Studio Max, V-Ray, compagnia briscola, a cercare il miglior setting che si possa trovare per la texture o per la luce. Io semplicemente, una volta che ho importato all'interno del mio software di rendering in real time il modello, ci metto dentro i materiali, che vuol dire che se io ho una superficie, io applico a questa superficie una texture che fa somigliare quella superficie a un piano di legno, per dire, con le sue caratteristiche di riflessione, di rugosità e di riflettanza. Io, fatto questo, non devo lanciare un rendering, devo semplicemente salvare quasi un'istantanea di quello che vedo a schermo, semplicemente. E la cosa è molto interessante perché ho fatto una prova sul mio computer di lavoro, che ricordo è un semplice MacBook Pro 13 pollici senza scheda video dedicata, quindi parliamo di un Intel i5 con la Iris Plus. Dunque, il rendering lanciato all'interno del software Beam della stessa IMA, dello stesso modello, ci ha messo un'ora. Col software di rendering in real time io ci ho messo semplicemente 10 minuti, quindi vuol dire che ne faccio 6 nello stesso tempo. E considerate che questo, il tempo, come sapete, per i professionisti è una cosa che è oro. E dal mio punto di vista professionale, quindi, il software di rendering in real time mi ha cambiato davvero la vita, perché sì, è anche vero quello che dice il nostro Simone Gusella, aggiungo, che la situazione tra un rendering statico e un rendering in real time alla fine sono distanti come qualità, ma io aggiungo sempre dipende da chi lo usa, perché ho visto dei rendering fatti dai software in real time che fanno veramente paura e non hanno niente da invidiare da quelli statici. Per in più aggiungo che c'è una cosa che i software di rendering statici probabilmente non fanno, che sono i filmati, nel senso che in realtà i software di rendering in real time ti permettono di fare dei filmati Semplicemente, senza metterci tanto tempo, anche in questo caso ho fatto un piccolo filmato proprio di prova sul mio Mac, che continua a dire non ha scheda grafica dedicata. Ci ha messo qualcosa, mi pare che ci abbia messo una mezz'ora per tirare fuori un filmato, mi pare, di 15 secondi di una strisciata lungo un edificio. E secondo me questo è davvero l'innovazione dal punto di vista proprio della realizzazione di chi sta dietro a fare le cose, perché ti permette di risparmiare tempo e, piuttosto che il ray tracing. E appunto su questo mi collego su prendo un po' di spazio così per allargare la questione, perché questa modifica del modo di fare il rendering e la visualizzazione architettonica è cambiata, tant'è che è stato fatto un sondaggio sui software di rendering più usati intorno per l'anno 2019. Quindi in questo sito che si chiama CG Architects sono state raccolte queste risposte il 25 giugno 2020 e l'11 settembre 2020 tramite essenzialmente la community di CG Architect e il sito Facebook, e ha raccolto circa 2500 risposte. Di queste 2500 risposte voi potete considerare che chi lavora nell'Archviz magari usa più motori di rendering. E quello che volevo sottolineare, appunto, visto che ci colleghiamo ad Unreal Engine in questo momento, diciamo l'anno scorso ma siamo vicini, V-Ray occupa le preferenze per il 64%, a ruota Corona Renderer, poi Lumion e, attenzione, in quarta posizione arriva col 16% Unreal. La cosa interessante di questa classifica è che in sesto posto arriva Twinmotion. Twinmotion è il software di rendering in real time che deriva da Unreal Engine e pensato direttamente per gli architetti. Quindi se voi pensate che queste due percentuali messe assieme incominciano a far capire quant'è il peso di Unreal Engine all'interno della visualizzazione grafica. Ma non solo questo, quello che secondo me è più interessante di tutto è la percentuale che riguarda le persone che vogliono provare nuovi software di rendering. E quello che salta fuori da questo sondaggio, che vince a mani bassi Unreal Engine, tra Twinmotion e proprio Unreal Engine. Quindi vediamo essenzialmente che il mercato incomincia un po' a spostarsi verso questi tipi di motori di rendering e di rendering in real time, appunto perché pesa davvero tanto la possibilità di avere una visualizzazione veloce di quello che si fa nel rendering. E assolutamente è una cosa che per i professionisti pesa davvero molto. Beh, certo, poi ci ritorniamo un po' su questa cosa, però è chiaro che poi uno strumento dedicato rispetto a uno strumento più generico e complesso, diciamo, ancora un po', secondo me, un po' se la battono. Allora, devo dire che di aver visto alcuni esperimenti, proprio alcuni progetti di interior design fatti, comunque presentati con Unreal Engine, che sicuramente non c'è il ray tracing, però con tutti i vari effetti di global illumination, come si chiamano, roba del genere, comunque gli dà quell'impatto fotorealistico che a volte vediamo anche un po' nei videogiochi, insomma, che alla fine comunque l'effetto al cliente glielo fa comunque, no? Perché la cosa è presentare il progetto, e una cosa è presentare il progetto anche bello, cioè nel senso che poi alla fine voglio o non vuoi, no? Sta cosa fa sempre un po' la differenza, no? È un po' come la incarti la pizza, diciamo così. Certamente, è tanto importante riuscire a trasferire l'idea. Ne parlavo appunto con un'intervista che ho fatto con Federico Biancullo, che è uno dei più grandi esponenti del rendering in Italia, che ha anche lui un suo podcast però in inglese, che parlava appunto che non si tratta di fare la cosa iperrealistica. In realtà non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è riuscire da una parte a spiegare il progetto, dall'altra parte a incantare il cliente e a farlo innamorare, certo, del, certo, progetto. Certo, immagino. Infatti è quello che sostanzialmente stavamo dicendo. Carlo, tu fino a qua hai qualcosa da aggiungere? No, No, perfetto. Allora io torno da Simone, che Simone ovviamente questa discussione la prende comunque dal suo punto di vista, che è quello di una persona che è comunque specializzata in animazione 3D, costruzione 3D dal punto di vista ludico, cioè nel senso comunque lui lavora e ha lavorato e lavora ancora nel mondo ovviamente dello sviluppo videoludico, quindi chiaramente quello per cui poi alla fine questi engine sono di base progettati, no? E ci domandavamo un po' così, perché chiaramente anche Carlo mi ha fatto notare questa cosa, noi abbiamo intitolato la puntata con il nome di Unreal Engine, ma in realtà possiamo parlare di motori 3D e di rendering in tempo reale, insomma anche generici, non è detto che dobbiamo parlare per forza. Quindi tornando a Unreal Engine, che tu ne hai insomma sempre parlato positivamente, diciamo, l'hai sempre sostenuto, hai sempre supportato, diciamo, da quel punto di vista, secondo te oggi, quindi con la maggiore esperienza che hai acquisito rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, perché Unreal Engine 4 e perché no? O perché un altro tipo di motore? Beh, la risposta l'hai già detta tu, è che la domanda è nato per fare videogiochi, tutto il resto pure Unity è nato per fare, ma ci vuole tanto lavoro, cioè per fare un appartamento visto in real time da presentare magari un potenziale cliente ce n'è di lavoro dietro, ci vogliono veramente tanto tempo, tanti soldi, tante conoscenze, persone. Quindi diciamo questo è il problema principale. C'è molta più programmazione dietro, per esempio in un software come 3D Studio Max, Maya, Blender, eccetera eccetera, dove tutto è più orientato al contenuto, è un po' più semplice, più guidata questa procedura. In un engine, per esempio Unreal Engine 4, la cosa è meno scontata perché appunto nasce con un'esigenza diversa. Poi qualche matto ha visto che si possono fare video, si possono fare pubblicità, ci fanno i configuratori per l'automobile, cioè tu vai magari, chiaro, non alla Fiat a comprare la Panda, magari che so, la Ferrari, e ti danno in mano un tablet, ti ruoti la tua Ferrarina, scegli il colore della pelle, delle cuciture. Sì, ma senza arrivare alla Ferrari, comunque l'ho visto anche in altre case automobilistiche. Sì. Poi in realtà ci si fa animazione 3D, si fanno cortometraggi, ci si fa veramente un po' di tutto ormai, no? Sì, praticamente Unreal è in grado di fare tutto. Il come lo fa purtroppo è un pochino un problema, cioè tutte queste robe qui, non esiste un pulsante che te lo fa, praticamente è un videogioco da programmare quello. Poi non so fare, non c'è una storia, ma pazienza, quello praticamente è un videogioco che va in real time. E questo è anche un altro problema, perché Unreal Engine è un po' pesantuccio, cioè molto orientato a PC e console. Per esempio il mobile non è un granché, con Unreal è molto esoso in termini di risorse, su quello insomma vince Unity. E, diciamo, il futuro degli engine grafici è anche quello di saper gestire animazioni, video, filmati, rendering architettonici, eccetera. Cioè tu dici fare il compositing direttamente in engine, cioè nel senso... Ah, sì, anche quello sicuramente arriverà. Non so se e quanto ci sia il compositing in Unreal al momento, ma è questione di tempo. Già Disney ha iniziato a usare Unreal anche solo magari per esperimenti, ma ha già iniziato a usarlo per film e produzioni televisive. Poi Alex sicuramente sa di cosa sto parlando, sa di cosa sto parlando, e ci sono degli scenari molto molto interessanti all'orizzonte. Senti, noi abbiamo sempre considerato Unreal Engine sicuramente il più complesso, ma comunque quello qualitativamente superiore rispetto ai vari competitor. Diciamo Unity ad esempio, secondo me, da un certo punto di vista è più versatile, è più adatto magari allo sviluppo indie, però chiaramente non arriva alle potenzialità tecniche di Unreal Engine, anche se poi comunque ci si è avvicinato molto. Tu hai visto la demo di Unreal Engine 5, quindi hai avuto l'opportunità di vederlo in tempo reale, cioè non era più un filmato su YouTube, cioè tu l'hai visto proprio con i tuoi occhi. Sì, l'ho giocato. Cioè, lì siamo andati oltre. Guarda, l'ho giocata su una PlayStation 5, su un dev kit che abbiamo in azienda, e così a primo sguardo può sembrare un'evoluzione grafica di Unreal Engine 4, ma tutto quello che c'è dietro è una roba sconvolgente, cioè c'è un flusso di lavoro dietro completamente nuovo, veramente rivoluzionario, a partire dalla gestione delle geometrie, che magari non per gli asset animati o simulati tipo acqua, tessuti eccetera, ma per tutto ciò che è l'environment, taglia fuori tutta una parte di pipeline importantissima. Cioè praticamente se devi inserire una roccia o un edificio scansionato con il laser, con il LiDAR per esempio, non devi più passare da un software che ti ricostruisce la geometria per avere un numero di poligoni più basso, per poi farci sopra il baking delle texture. Cioè praticamente il baking significa portare quella che è la fotografia della vita reale, diciamo viene appiccicata sul modello 3D nuovo, che ha tutta una struttura diversa, nuova, ottimizzata. Tutta questa parte viene completamente cancellata, si passa direttamente dalla scansione 3D al motore grafico, punto, basta. Non ci sono più i cosiddetti LOD, che sono i livelli di dettaglio, cioè praticamente se fai un primo piano di un personaggio hai bisogno di tanti modelli di una texture molto grande per coprire un grande spazio su schermo. Se invece lo vedi in lontananza, praticamente ti servono tre triangoli per disegnare quella geometria e un puntino di colore. Tutta questa parte viene cancellata perché l'engine ci pensa direttamente lui a capire quanto dettaglio serve e in tempo reale ricostruisce la geometria. Qui mi ricollego un attimo a quello che stavo dicendo prima, ovvero i limiti tecnici che hanno portato al potenziamento delle schede video, ovvero gli asset nei videogiochi ovviamente sono diventati molto molto complessi negli ultimi 20 anni, geometrie sempre più diciamo dense di poligoni, texture più grandi, spazi più grandi e quindi, gigabyte più grandi, sì, robe enormi. E il problema principale era la memoria, cioè ovvero la comunicazione di questi dati tra la scheda video e il resto del computer. E allora pian piano i vari pionieri dell'industria hanno detto: ma perché fare continuamente dialogare scheda video e processore che fanno fatica a reggere la richiesta di informazioni sempre nuova? Perché non facciamo così? Buttiamo tutto dentro alla scheda video una volta sola e poi quella si fa i suoi calcoli. Iniziamo a fare schede video sempre più potenti, così la banda per questioni tecnologiche non può crescere più di tanto, la potenza della scheda video sì, sfruttiamola. Queste geometrie vengono computate in real time dalla scheda video direttamente, che elabora tutta una serie di dati basilari e costruisce letteralmente la scena. Ma quindi è per questo che tu dici la CPU è morta, viva la CPU, cioè nel senso, sì, cioè nel senso comunque il processo centrale diciamo viene sgravato in maniera oltremodo totale quasi. Sì, il processore sta diventando via via sempre più marginale all'interno di un videogioco. Prima, quando compravi una CPU da gaming, dovevi informarti perché con la scheda video X questo CPU fa da bottleneck, fa da collo di bottiglia, rallenta, la scheda video performa molto di meno, eccetera eccetera. E adesso sì, chiaro, se metti un Core Duo con una 3080 fa schifo, però comunque esplode, diciamo, esplode quanto faceva un dual core all'epoca con la scheda video, insomma, più potente sul mercato, proprio perché la maggior parte dei calcoli si sta spostando sulla scheda video. Ottimo. Posizione di vertici, tutte le cose grafiche, quindi la texture e la composizione delle mesh, tutte queste cose qua. Ok, allora andiamo avanti un po' con la discussione, anche perché in effetti purtroppo non è colpa sua, però veramente il collegamento è un po' complicato. Poi giustamente, rimanendo in trasmissione, Simone poi interverrà sulle varie cose che diranno anche gli altri, perché poi qui approfondiremo un po' il discorso, e siccome che lui comunque oramai ha acquisito la sua esperienza, insomma giustamente ci avrà anche altre cose da dire che magari si è appuntato. Però facciamo anche un po' girare un po' la palla, come si dice in gergo calcistico, facendo un po' di tiki-taka e passando a Roberto. A Roberto, il primo punto era i motori di rendering più utilizzati, però diciamo che già questo aggancio lo abbiamo già dato, no? Cioè, nel senso, sì, certamente. Quindi possiamo passare tranquillamente ai temi successivi. Al secondo punto. Vai. Aggiungo solo una cosa riguardo a quello che ha detto Simone Gusella, che cui stavo riflettendo adesso, per quanto riguarda la CPU e la GPU. Non so se avete notato quello che si sta delineando nel mercato, è una cosa che fa abbastanza ridere, nel senso, come AMD fa delle CPU che fanno spavento e delle GPU che sono andati a prendere Nvidia e si sono attaccati alla caviglia e non si staccano più. Recentemente Nvidia ha comprato niente meno che ARM, ok? Sì, Apple sta portando avanti la sua CPU che si chiama M1 e fa spavento e paura, e molto probabilmente porterà avanti anche la sua GPU. E chi rimane fuori da tutto questo discorso? Intel, che sta lì con le sue schede integrate, e credo che tra poco, penso che sarà l'ultima cosa che farà, perché ormai è stato circondata e assediata da tutti questi software, case hardware, che quindi si sono premuniti di far dialogare nel modo più veloce possibile CPU e GPU, e mentre Intel, a meno di sorprese, è rimasta con la sua Intel e rimane lì. Io molto curioso di vedere di quello che succederà nei prossimi anni. Infatti, proprio su questo, a questo punto, faccio una domanda a Carlo, così lo facciamo entrare anche lui un po' in partita. Carlo, in realtà ogni impero prima o poi cade, no? Ma sì, è ovvio, come è successo già tante altre volte, ma è anche vero che non si può mai sapere, nel senso che se fossimo capaci di prevedere esattamente il futuro, saremmo già ricchi, almeno io sarei miliardario in questo momento. Avremmo comprato un sacco di bitcoin. Esattamente, bravissimo. Ad esempio, non puoi mai sapere cosa succede domani, quindi è vero che per come sta andando il mercato in questo momento, Intel di certo non ha dei buoni presagi dal punto di vista di che cosa succederà domani, ma nessuno può sapere che cosa ha dentro la tasca, nel senso che io so che per esempio Intel con IBM e Google sono i tre centri di ricerca più avanzati al mondo per quanto riguarda i processori quantici, quantum processor, quindi magari riescono per primi a risolvere le problematiche dei processori quantici ed escono l'anno prossimo, che ricordiamo sono quelli di creare dei piccoli buchi neri, no? Giusto? Esatto. E quindi non lo possiamo sapere questo. Detto questo, condivido quello che è stato detto fino adesso. Allo stato attuale, la situazione questa è, insomma, Alex, tu che dici? Scusa, no, mi ero perso per l'ultima cosa. No, no, stavamo dicendo del fatto di quello che diceva, cioè convenevamo, diciamo, con Roberto sul fatto che, vista la situazione attuale, per quello che vediamo noi, Intel in questo momento è un po' l'impero accerchiato, diciamo così, no? Che... Ma sai cos'è? Il problema, non è problema, nel senso, il vincolo che ha Intel è stato quello di mantenere uno strato di compatibilità verso il basso con un processore che fondamentalmente è nato 40 anni fa. Quando poi un sacco di tecnologie sono state inventate e sviluppate e ottimizzate nel frattempo, le schede grafiche hanno il vantaggio che possono reinventarsi ogni volta, cioè per presente le varie generazioni di Nvidia, Ampere, Volta, poi la prossima che sarà Lovelace, la nostra donna preferita, cioè la donna che ha inventato i linguaggi di programmazione, praticamente ogni volta loro possono cambiare tutto quello che vogliono, perché non devono mantenere la compatibilità, perché loro essenzialmente scrivono dei driver, i driver sono l'oggetto che funziona sullo strato comune e poi dopo comunica con la scheda video e gli fa fare quello che vuole, perché la scheda video si arrangia a gestirsi. Parallelamente, dal punto di vista del mondo dell'hardware, Apple ha deciso: sai che c'è, mi faccio il processore da zero, che cacchio me ne frega. Hanno fatto una cosa completamente innovativa e devo dire che tutti l'aspettavano con ansia, per quando è uscito effettivamente hanno tirato fuori, hanno fatto l'elicottero, per farvi capire, cioè tutto il mondo, non soltanto quello Mac, è lì che dice: davvero sta roba qua is it real? E per cui è molto più facile innovare dal punto di vista hardware senza mantenere legami col passato, la compatibilità col passato. C'è anche da dire che un processore è un oggetto che è come se avesse dentro decine, se non centinaia di cazzilli, e milioni di cazzilli, scusate, e non è che un singolo essere umano può capire cosa c'è dentro, si va a ricostruire partendo dalle fondamenta, per cui ogni generazione si basa sulla generazione precedente, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui un ingegnere che oggi sta lavorando al processore della prossima generazione di Intel non sa come è nato il primo, cioè non può conoscere tutti questi 100 milioni di cose, essenzialmente si basa su quello che entra e quello che esce, però non può andare effettivamente ad innovare, perché essenzialmente si basa su un oggetto che è lì ed deve essere anche giustamente sacro e immutabile, altrimenti non ci gira più nient'altro. Altri hanno avuto anche la dimensione del mercato non così grande da potersi permettere di dire: sai che c'è, cancelliamo tutto, ricominciamo da zero e via. Ovviamente qualcuno se lo può permettere, loro no. Senti, Roberto Dormaiolo, che salutiamo, chiaramente ritroveremo giovedì prossimo nella puntata di Archeologia Informatica dedicata al cinema e l'informatica, i computer, i computeroni, quelli con i pulsantoni, quelli che vogliono distruggere il mondo. E dice: lo faranno. Ridatemi Amiga e Lightwave 3D, grande, grande, veramente l'affetto incommensurabile. Salutiamo anche in chat, ovviamente, aspettate, mi sono perso, al 9000, che ci fa piacere, insomma, che ci ascolta. Tra l'altro, permettetemi un secondo, una brevissima pausa, faccio le mie congratulazioni veramente con grande affetto, insomma, stima per un amico di Runtime, amico anche personale, Umberto Parisi dei Beceri Videoludici, che è diventato bipapà, quindi insomma ci tenevo, bravo. È diventato bipapà nel momento in cui è uscito il suo secondo gioco su Steam, quindi deve essere proprio un incrocio quasi mortale, penso, una cosa del genere, insomma. Allora è tripapà, è tripapà. Va bene, allora Roberto, Trip Advisor anche. Torniamo da Robert. Eccomi. Robert, che giustamente se c'è Robert si deve parlare di Apple a un certo punto. Sì, a un certo punto ci arriviamo ad Apple, ci dobbiamo passare, insomma. Sì, ci siamo. Lo so che mi dipingi come fanboy e quindi io ci navigo in questa cosa, mi piace tantissimo. Ok, ti dipingo io. Sì, mi dipingi. Allora, urban planning con Twinmotion, però anche questo lo sai che forse abbiamo... Vai. Ma sì, ne abbiamo parlato di Striscio, ma diciamo che, come vi dicevo prima, Twinmotion è essenzialmente la costola architettonica di Unreal Engine. Noi architetti, come sempre, non andiamo tanto d'accordo con l'informatica, abbiamo bisogno di qualcosa di immediato che ci permetta di fare le cose in modo molto veloce. Beh, certo, perché, per ragioni pratiche, chiaro. Perché certo. Veramente, io ho imparato 3D Studio Max quando ero all'università e c'era una quantità di parametri che ti passava la voglia di fare qualsiasi tipo di rendering. E così invece con Twinmotion la cosa è decisamente molto molto più semplice, nel senso che non devo stare a impazzire con una serie di numeri da inserire, ma ad esempio una cosa stupidissima: per cambiare un parametro mi basta una levetta da alzare e abbassare per cambiare il parametro, una cosa molto semplice, molto visuale. Questa capacità di Twinmotion di essere così semplice e visuale, ma avere ottenere degli ottimi risultati, ha permesso ad esempio a degli studi che ci sono ad esempio nei Paesi Bassi, che si chiama Plan 34, che ha usato appunto Twinmotion nel modo migliore possibile, ovvero cercando di sfruttare le sue qualità di rappresentazione 3D digitale realistica per presentare il progetto e anche fare, come dicevamo, lo studio urbanistico. La cosa poi, scusa, ti interrompo perché per chi è curioso, Twinmotion è proprio sul sito di Epic, cioè è un add-on di Unreal Engine. No, è un programma esterno a parte, ok, però sempre fornito da Epic, cioè nel senso esattamente ultimamente è uscito un direct link che permette di far parlare Unreal con Twinmotion, quindi sono proprio due sistemi separati. Ah, ok. E quindi adesso hanno iniziato anche a dialogare, okay, diciamo in questo ultimo periodo. Madonna, fa delle cose mostruose sto coso. Vabbè, chiaramente Unreal Engine, quindi ok, sì, scusa, diciamo, scusa, non volevo interrompere. Ha reso Unreal Engine più digeribile, appunto perché, come diceva Simone Gusella, non è così facile usarlo Unreal Engine. Invece Twinmotion, essendo molto molto semplice, molto visuale, appunto come dicevo, ad esempio la testimonianza di Plan 34 diceva che in 4 settimane questi hanno imparato a usarlo tranquillamente, cioè come se fossero a casa loro. E anche qui un'altra cosa che continua a tornare è il tempo che si riesce a risparmiare con dei software di questo tipo di rendering in real time. Una cosa interessante di Twinmotion ad esempio è la possibilità di esportare il modello tridimensionale renderizzato in un file a sé stante, in modo tale che se io, progettista, voglio far vedere il mio modello tridimensionale renderizzato, renderlo navigabile, esporta un file che adesso ha cambiato nome, diventa Twinmotion Presenter, mentre nelle versioni precedenti si chiamava Binmotion. Permette a un utente qualsiasi, al classico cliente che non deve essere per forza un esperto informatico, però gli permette di vederlo da qualsiasi dispositivo, vedere il progetto tranquillamente sul suo schermo. E questo è una cosa molto interessante, perché appunto questa possibilità viene anche utilizzata ad esempio nelle riunioni con la committenza pubblica, nel senso che le immagini fisse che permette di fare Twinmotion, i video, oppure addirittura utilizzare la realtà virtuale a seconda della fase di progettazione in cui si trova il progetto, permette appunto di presentarlo a persone che possono essere quelle della pubblica amministrazione, ma come i cittadini che possono essere all'interno di questa riunione. Quindi è capitato, come spiegava, che nel 2016 è stato fatto un progetto di riqualificazione e di rilancio dell'area del boulevard a Scheveningen, spero che sia pronunciato giusto, ma non essendo casa mia non so come si pronuncia. Comunque le visualizzazioni sono state utilizzate per valutare i progetti proposti e per le presentazioni al sindaco, assessori, sviluppatori dei progetti, residenti e imprenditori locali. Quindi questo è molto interessante, anche perché Twinmotion io parlo di Twinmotion perché è quello che conosco meglio, ma tendenzialmente tutti i software di rendering in real time si comportano così, permettono anche di cambiare istantaneamente la luce e passare dal giorno alla notte, oppure cambiare stagione. Questo cosa vuol dire? Che voi avete il vostro progetto a video, potete far vedere a, che ne so, al nostro assessore pubblico di turno, che vuole sapere come funziona l'illuminazione di questo progetto, con la strada e la piazza che sarà stata realizzata, voi con una, spostando una semplice levetta potete far vedere il passaggio del sole a tutte le ore. Quindi voi avete, vedete il, come se fosse un filmato essenzialmente, e vedete il cambiamento delle, delle luci all'interno di questa visualizzazione, che è del tutto naturale, perché non è che bisogna aspettare tempi di rendering, è una cosa che si vede direttamente a video come se fosse un filmato, solo che si riesce a interagire. E per esempio spiegavano che è stato molto utile, ad esempio, proprio nella fattispecie, perché alcuni errori di progettazione che erano passati come sottobanco, grazie a questa possibilità si è riuscito a capire se l'illuminazione stradale e pubblica era effettivamente centrata, e anche questo è un ottimo vantaggio sotto tutti i punti di vista. Un altro esempio è quello che durante le serate informative ai residenti è stata data l'opportunità di prendere conoscenza dei piani e dei progetti individualmente e quindi di valutare la loro reazione. In pratica tutti quelli che erano presenti, come spiega in questo articolo Plan 34, tutti hanno potuto vedere il progetto da diverse posizioni, perché anche questa è una particolarità. L'immagine statica ti dà una visualizzazione, un angolo, un punto di vista. Con il software di rendering in real time voi siete liberi di girare attorno al progetto e viene renderizzato istantaneamente senza grossi problemi. Certo. Per di più ci sono anche le animazioni, quindi voi potete immaginare che se siete di fianco a una strada voi vedete passare le macchine, oppure potete far vedere passare le persone, una pista ciclabile. Insomma, è una diciamo che il rendering diventa animato e lascia ovviamente grosse possibilità a tutti quelli che lo vogliono utilizzare, come in questi esempi. Alex, se tu lo vuoi, guarda, c'è un'offerta a tempo, costa 408,70. Non so se te... Cosa? No, Twinmotion? Sì. Ah, io ad esempio lo uso gratuitamente, perché ero uno dei primi che l'ha iniziato a usare 2-3 anni fa. E fino adesso io sto utilizzando questo software in modo gratuito, perché certo, era uscita in beta pubblica e io ho iniziato a usarlo e ho continuato a utilizzarlo e continuano a rinnovare, spero ancora per un annetto. Ma se Dio vuole, in realtà poi qua c'è scritto free for student and educators, quindi praticamente sì, in teoria, cioè nel senso, non so, non credo che tu ti chiedano il certificato di studentato, insomma. Comunque vabbè, al di là di questo, insomma, chiaramente è uno strumento professionale che, a differenza della Real Engine, che è completamente gratuito di base, però poi dopo ci sono le questioni delle licenze quando tu sviluppi il videogioco o gli assets nello store da acquistare, insomma, quindi alla fine comunque il suo business ce l'ha. Chiaramente questo è uno strumento progettato per una categoria di professionisti, ci sta, insomma, che abbia il suo costo, ma poi probabilmente, insomma, come vedo qua, alla fine comunque, cioè, lui ti dice sì, costa così, però accattatelo pure gratis. Un po' come no, è veramente interessante, perché poi io penso anche alle applicazioni che poi dicevamo un po' l'applicazione della Real Engine extra professionale, ma anche uno strumento come questo utilizzarlo per altre cose, cioè nel senso, io comunque mi posso pre-renderizzare degli scenari. Parlavamo con Alex, e vengo un attimo ad Alex, parlavamo con Alex, che voi non sapete, molti di voi non sanno, ma Alex realizzò un cortometraggio in QuickTime 3:20x2:40 nel lontano, non so quand'era, 99, e fu uno dei primi in Italia praticamente ad utilizzare il computer con tutte quelle che sono le tecniche di compositing digitale, quindi gli scenari in green screen poi realizzati in 3D, tutto fatto da lui, un lavoro corto ma mostruoso, cioè per l'epoca. Voi dovete considerare anche i tempi di realizzazione di una cosa del genere, no? E allora pensavamo al fatto, vedi Alex, se ci fossero stati questi strumenti qua, quanto sarebbe stato tutto diverso, no? È difficile pensarla in un contesto temporale differente, perché considera che adesso il telefono cellulare che ho in mano, che è vecchio di 5 anni, tipo è 200.000 volte più potente del computer che ho usato per renderizzare The Stone. Beh, che certo, spero che nessuno vedrà mai. Io l'ho visto. Io l'ho visto e sono orgoglioso di averlo visto. Sì, lo voglio. soprattutto tu no, perché i modelli non li ho neanche fatti io, per dirti, cioè li ho fatti un altro mio amico, li abbiamo fatti in Bryce, pensa te come eravamo messi male. Grande Bryce. E le cose sarebbero completamente differenti adesso, perché sì, probabilmente impiegherei allo stesso tempo, ma sarebbe tutto girato in 4K con sfondi molto più realistici, eccetera eccetera eccetera. Le cose sono essenzialmente figlie del loro tempo, un po' come Roberto che ci parla di Lightwave 3D del primo Amiga, e sì, quella roba lì se la vedi adesso è imbarazzante, però allora veramente era lo stato dell'arte. Ovviamente The Stone non era lo stato dell'arte, anche se secondo me un paio di inquadrature, movimenti di camera belli c'erano già, però ripeto, era figlio di quel tempo lì. Oggi le cose si fanno naturalmente in modo completamente differente. Hai già anticipato tu il fatto che si possono utilizzare motori tridimensionali per avere dei rendering più veloci, non in tempo reale, o anche appunto per avere rendering in tempo reale per fare set extension proiettati dal vivo. Le cose sono iniziano ad essere possibili adesso, perché la potenza di calcolo è tale per cui il rendering in tempo reale è sufficientemente fotorealistico da ingannare lo spettatore e da essere realistico ed utilizzabile, mentre prima ovviamente non lo era. Beh, chiaramente la domanda che, cioè il gancio che ti ho dato era per stimolare la discussione. È chiaro che non calcoliamo quello che abbiamo fatto 20 anni fa, 30 anni fa, con, cioè non soltanto col fatto della Real Engine, ma ovviamente con col fatto, diciamo, dei computer che oggi non sono niente rispetto a quello che ci abbiamo in tasca, che lo diciamo sempre un po' pure con Carlo, no? La miniaturizzazione della tecnologia, il suo aumento esponenziale. Il problema poi è quello che ci facciamo con sta roba, insomma. Carlo, a te invece, secondo te che applicazione ci può avere un engine 3D in generale, al di là dell'architettura o del videogioco o del cinema, che poi ci ritorniamo a parlare anche del cinema, così poi ricordiamo anche Simone. Ma guarda, infinite, nel senso, il limite è la fantasia, lo sappiamo tutti. Io quello che posso dare come esperienza mia personale, io più o meno da sempre, da quando, diciamo, si è iniziato un po' a utilizzare i computer, ho fatto grafica con i computer da sempre, e la grafica 3D ha sempre avuto una parte sempre presente da ormai 30 anni a questa parte nella mia attività, diciamo, lavorativa. E negli ultimi anni, soprattutto recentemente, anche uno dei grossi progetti che ho realizzato dal punto di vista lavorativo ha a che fare con la visualizzazione in tempo reale di ambienti tridimensionali. E a riguardo, perché ti ho segnalato, parliamo di engine in generale, non solo di Unreal Engine in particolare in questo caso, perché è una cosa che è già emersa un po' durante la discussione, ma vorrei magari ribadirla. Cioè, non esiste il motore ideale solo perché rende assolutamente realistico una visualizzazione tridimensionale. Cioè, è ovvio che il ray tracing in real time è un punto di arrivo, perché è qualcosa che si è inseguito per tanti anni e finalmente adesso le tecnologie attuali iniziano a renderlo possibile. Sì, per far incazzare Alex, diciamo, l'hanno fatto anche sul Super NES, quindi vabbè. Diciamo, le tecnologie iniziano a renderlo possibile, ma non è alla fine quello che conta nella visualizzazione di un ambiente tridimensionale. È anche tanto il manico, cioè come nel cinema conta tanto la regia, conta la fotografia più dell'effetto speciale, anche nella visualizzazione della grafica 3D conta la fotografia, conta la qualità generale di quello che tu fai vedere, di quello che tu realizzi, piuttosto del cosa stai usando per realizzarlo. E questo è tanto più vero quanto ci sono delle limitazioni. Una delle cose con cui ti scontri nella realtà di tutti i giorni, se tu queste cose di cui abbiamo accennato in teoria in questo momento le metti in pratica nel mondo reale, uno dei maggiori problemi che hai attualmente nell'utilizzare motori in generale di rendering in tempo reale è che tu devi preoccuparti di tutto il mondo, cioè di tutto quello che c'è fuori. Non puoi dire sì, lo puoi dire, per esempio alcuni videogiochi lo dicono e lo fanno, dicono questo è il miglior possibile, se lo vuoi vedere così devi avere questa scheda video, questo PC te lo devi comprare, tu vuoi usare questo videogioco lo fai così. Ma se tu stai facendo un applicativo web che si usa tramite browser, che devono usare tutte le persone del mondo in maniera semplice, deve avere il pubblico maggiore possibile, non puoi limitarti a dire tu devi avere questa scheda video, tu devi avere questo processore, tu devi avere questo. Devi cercare di rendere l'esperienza quanto più compatibile con tutti. E questo i motori di ultima generazione spesso non lo fanno. Per esempio, faccio un esempio semplice, i player web HTML5 sia di Unreal che di Unity soffrono tantissimo di problemi di compatibilità sia interbrowser sia tra macchine diverse e sia di problemi altissimi di performance se i tuoi PC non sono più che aggiornati o recenti. Detto questo, quando quello che diceva anche Simone prima, no? Il fatto che comunque la Unreal Engine, esatto, magari va più sulla forza bruta rispetto magari a Unity, che cerca di essere un po' più ottimizzato anche per il mobile e via dicendo. Cerca, ma non ci riesce, perché sia Unity che Unreal Engine nascono per i videogiochi e nei videogiochi, come ho detto, è comune dire arrangiati, cioè se vuoi giocare al videogioco cerchi la macchina dove il gioco va meglio. Ricordiamo la Origins, tanto per... è così, cioè non è che nei videogiochi è sempre stato così, sì, sì, invece nel web non è così. Nel web, se tu hai un cellulare vecchio e il sito che stai usando non va, ti incazzi e dici perché non funziona questo sito, non compri cellulare nuovo perché il sito che voi usate non sta andando. Quindi se fai qualcosa che vi deve essere utilizzato da web per il web, che non sia il videogioco ma che debba essere un servizio, devi porti il problema che la cosa deve girare anche sui cellulari vecchi, sui computer vecchi, tra virgolette vecchi, nel senso che comunque aggiornati, ma anche il computer economico, diciamo anche il computer piccolo. E quindi dopo aver perso circa un anno in software selection tra Unreal, Unity e altri grossi motori di ricerca, alla fine la nostra scelta è andata su un motore di visualizzazione 3D in real time che non era molto conosciuto quando abbiamo iniziato a usarlo noi, sta diventando più famoso adesso, che si chiama Babylon.js. Babylon è un motore di rendering che non punta ovviamente per sue caratteristiche intrinseche alla qualità grafica, al fotorealismo, sì, ma punta alla velocità, alla semplicità e alla intercompatibilità tra tutti i device possibili, che era quello che stavamo cercando. E alla fine, se guardate, ci sono delle demo incredibili anche realizzate con questo sistema, con una qualità eccezionale. Perché? Perché in realtà conta molto di più una bella scena fatta bene con le texture giuste, le luci giuste, fatta da 10 poligoni, che una scena di 12.000 poligoni con magari delle texture pessime e delle brutte, diciamo, inquadrature. Però non fa, non fa manco schifo, devo dire la verità, cioè, chiaramente non sarà all'altezza, però non fa schifo. No, Babylon è ottimo, infatti ci abbiamo realizzato un prodotto che si chiama Liu.city, se volete andare a guardare ve lo guardate, siamo in beta adesso, è stato rilasciato da poco, e Liu.city permette la visualizzazione di fiere d'arte virtuale in real time che vengono costruite partendo da una base dati, quindi possono essere realizzate da persone che non hanno capacità di disegno 3D, ma semplicemente disegnano su una specie di cartina le pareti, ci mettono i quadri sulle pareti e queste poi vengono. È pensato per le fiere d'arte, per chi crea eventi di arte o o comunque gallerie, insomma, persone che non hanno sicuramente all'interno una specializzazione o degli specialisti nel campo dell'informatica o del disegno 3D, ma che con questo sistema possono in maniera abbastanza agevole e semplice crearsi le fiere virtuali, visto anche la crisi attuale che abbiamo delle fiere dovuta al Covid, eccetera, certo. E che comunque sicuramente ha cambiato un po' il modo di allora, per chi ci ascolta è lieu.city, city scritto sì, no, perché vabbè, magari, ma metterò comunque le note dell'episodio, perché a Ludico Forum siamo tornati a mettere i link delle note dell'episodio. Incredibile, ragazzi, questa incredibile, tecnologia vabbè. Così evoluta è... Vabbè, bello, interessante questa cosa. Una cosa da dire che magari farà piacere anche al nostro amico Roberto, si chiama Roberto. Roberto è che Babylon è un progetto open source che è nato però all'interno di Microsoft, quindi è qualcosa che comunque ha dietro una base, diciamo, non è un progetto che può morire o che non è seguito, perché comunque ha dietro un'azienda abbastanza solida, però è tutto open source, cioè completamente open source, e il nome Babylon e molta dell'ispirazione che c'è dietro dell'ideatore principale e poi di alcuni progettisti che ci hanno lavorato deriva da Amiga. Perché Babylon era una serie, Babylon 5, era una serie di fantascienza che probabilmente, certo, Simone ti ricordi, è molto ricordato, esatto, che era stata realizzata proprio con Lightwave su Amiga, tutta la grafica 3D. E si vede. Eh beh, stiamo parlando degli anni 80. No, si vedeva pure allora, dai, si vedeva pure allora. No? Ed è, appunto, si chiama Babylon in onore di questo. Babylon, il nome della libreria deriva proprio da Babylon 5, sì, realizzata su Amiga. Ci sono molti elementi di Amiga dentro. Quando vai nelle demo ci sono le Boing Ball, ci sono tante cose che lo richiamano. Diciamo che non me lo immaginavo, però la prima cosa, come ho visto Babylon, la prima cosa che mi è venuta in mente è Babylon 5. Non lo so, ovviamente è un'associazione da nerd. Babylon 5 è comunque una serie di fantascienza, al di là che fu realizzata con pochi soldi rispetto ad altre, è una serie di fantascienza bellissima e che dovrebbe venire rivalutata, secondo me, anche è tosta in tempi recenti, vecchiata d'un male fuori te. Secondo me dovrebbero fare un remake, ecco, diciamo così. Probabilmente sì, ma solo dal punto di vista degli effetti speciali. La storia, se la guardi ancora adesso, regge molto di più di serie moderne, sì. Tipo di Voyager, no, Voyager Discovery, scusa. Va bene. Allora, torniamo da Roberto, così poi andiamo Alex e ritorno da Alex e Simone, così ci facciamo un po' un rimpallo sulle cose fighe, quelle effetti speciali. Rimpasto. Esatto, vai Rob, scusa che tu vedi che io cerco di fare un po' tutto, insomma, di dare spazio a tutti, quindi... Fai benissimo, stai conducendo alla grande, come mi aspettavo, in fin dei conti. Sei il patron di Runtime, non a caso, no? Comunque, mi riallaccio invece al discorso della mappatura, perché la mappatura per tirare fuori qualcosa di tridimensionale è stato utilizzato anche per fare un clone digitale di una città, parliamo di Adelaide, ed è stato utilizzato anche in questo caso Unreal Engine. Praticamente, cosa è stato fatto? È stato creato un ambiente complesso in tempo reale, quindi renderizzato in tempo reale, per permettere anche di pianificare e rendere possibile quello che sarà il futuro delle città, ma a questo ne arriviamo un po' più avanti. Intanto iniziamo a fermarci al clone digitale di Adelaide. Essenzialmente è un modello di città in 3D che viene utilizzato come punto di partenza per i gemelli digitali e le applicazioni per le città intelligenti. Quindi si può iniziare a pensare quali sono le nuove costruzioni o progetti di edifici, e possono essere integrati in questi modelli 3D e utilizzati per la consultazione delle comunità, per i lavori di ingegneria, la pianificazione, la simulazione solare, ad esempio, e la valutazione anche dei punti di vista di quello che come va a impattare una nuova costruzione all'interno di un edificato. Quindi i modelli 3D generati sono stati quindi sottoposti a un processo di pulizia, in questo caso manuale, per rimuovere gli artefatti che derivano dalle geometrie e dalle trame, ovviamente. Questi modelli poi sono stati suddivisi in tessere con diversi livelli di dettaglio e poi esportati in molti formati 3D, tra cui i classici, parlo per chi lavora nel mondo del 3D, OBJ e FBX, che sono appunto utilizzati tra le altre cose anche da Twinmotion e Unreal Engine. Quindi per integrare i modelli di città fatte in 3D in Twinmotion, in questo caso è stato utilizzato proprio questo software, il team ha prodotto più oggetti costituiti da tessere OBJ unite e quindi utilizzati queste tessere a varie diverse scale di dettaglio. Più è basso quanto più erano lontani dall'area di messa a fuoco, e anche qui ci riallacciamo al fatto che è una tecnica anche questa utilizzata dai videogiochi, nel senso è inutile tenere il livello di dettaglio altissimo per oggetti che stanno a 7 km di distanza, quando in realtà la concentrazione di chi guarda il video è a 10 passi di distanza al massimo. Tra le altre cose, volevo anche aggiungere una cosa che al di fuori del fatto che di queste visualizzazioni 3D, nel mondo dei videogiochi, volevo accennare solo questo, che c'è una tecnica molto interessante che riguarda noi architetti, soprattutto perché i paesaggi e i posti in cui ci si muove all'interno di un videogioco sono studiati apposta affinché il personaggio possa seguire una certa linea di intervento. Cioè, nel senso, se voglio che da programmatore, voglio che il giocatore vada verso un punto specificato all'interno di una mappa, posso intervenire come visualizzazione architettonica di fare in modo che, ne so, che verso quel punto le strade siano più larghe o che ci sia più luce e il resto siano un po' più in ombra, in modo tale da convogliare l'attenzione della persona verso il punto in cui il programmatore si era aveva prefissato. Questo è molto interessante dal punto di vista dei videogiochi, perché appunto è un incrocio di tematiche diverse che una volta erano molto distanti, come potevano essere il mondo dei videogiochi dal mondo dell'architettura, che insomma erano due mondi che fino a 20-30 anni fa neanche si parlavano, e adesso incomincia a diventare davvero delle cose che non dico che si possono sovrapporre, ma poco ci manca, nel senso che tornando alla mia esperienza diretta professionale, ho utilizzato questo tipologia di vista appunto per tra virgolette far divertire i miei clienti. Utilizzo chi segue il podcast sa che utilizzo software di BIM Authoring per la progettazione, che è questo nuovo step oltre al CAD di cui parlavo all'inizio, e la possibilità di esportare il modello tridimensionale in un formato che un cliente qualsiasi può guardarsi sul tablet è qualcosa di spettacolare. Io ho visto direttamente le facce dei clienti, che nella fattispecie era la ristrutturazione di una mansarda che era vuota, dovevamo renderla abitabile. Vedere questo cliente che con i suoi occhi girava col suo tablet e guardava quello che succedeva, come venivano le stanze direttamente nel posto, per questo cliente era una gamification del progetto, certo. E lui in effetti ha incominciato a immedesimarsi, e quindi grazie a questa esperienza ha cambiato anche la disposizione dell'arredo e ha deciso di fare l'ingresso in un altro modo, in modo tale che vedendo queste cose direttamente diventava anche una progettazione partecipata. E queste sono quelle diciamo possibilità che lascia il mondo dei videogiochi, che si porta all'interno del mondo dell'architettura, delle costruzioni, che diventa assolutamente interessante e una cosa nuova di cui in questo momento iniziamo a farne diciamo le esperienze, e sono assolutamente indispensabili, perché chiaramente è un valore aggiunto la possibilità di utilizzare anche motori di rendering real time per far vedere anche direttamente al cliente come funziona le cose dal giorno alla notte, o che ne so, siamo in montagna, vogliamo vedere quando nevica che effetto fa la nuova edificazione, è un valore aggiunto che fino a pochi anni fa potevamo far vedere magari semplicemente con immagine, invece in pochi secondi ti faccio vedere il passaggio dall'inverno all'estate e vedi la differenza. Questo qui è uno dei valori aggiunti. Ma tornando invece alla questione della digitalizzazione delle città, diventa davvero molto importante, qui incomincio un po' a stringere perché vedo che si sta facendo una certa, no? Come si dice, la cosa interessante è che la possibilità di digitalizzare le città, oltre a questi strumenti che vi abbiamo appena parlato come il clone digitale è essenzialmente solo il primo passo per arrivare a quello che è la teoria dei digital twin. I digital twin essenzialmente sono un clone digitale di un oggetto reale, però a cui è aggiunto, diciamo, la possibilità del Internet of Things. Essenzialmente cosa si tratta? Si tratta di avere una città dotata di sensori, ad esempio, e quindi questo può diventare molto interessante, come è stato per esempio per la città di Shanghai. Shanghai è una cosa che è circa di 3750 km quadrati, che è stato digitalizzato anche grazie ad Unreal Engine e ha permesso appunto di avere il digital twin di questa città. Essenzialmente, come vi dicevo, i gemelli digitali sono rappresentazioni virtuali di risorse fisiche che utilizzano informazioni digitali connesse, come utilizzando ad esempio i sensori di informazioni geografiche, satelliti, droni e altre fonti discorrendo per rispecchiare essenzialmente quello che succede. Quindi nel caso delle città, i pianificatori e gli ingegneri possono studiare i gemelli digitali e ottenere informazioni per migliorare i servizi, pianificare gli sviluppi, ottimizzare i sistemi degli edifici e monitorizzare il flusso del traffico. Ad esempio è stata fatta recentemente in una di queste città con un clone digitale, però con una parte di digital twin, diciamo, che serviva appunto a capire nel momento in cui ci fosse stata un'inondazione quali erano le strade da chiudere e le vie principali di fuga per le persone che erano interessate da questa inondazione. Chiaramente il digital twin ha un'ombra molto lunga per quanto riguarda la gestione dei dati, e qui immagino che ci sia il nostro Walter Vannini che ci va a nozze, perché insomma vuol dire che il digital twin potrebbe diventare anche facilmente qualcosa che tende a spiare e a incatenare le persone, perché essenzialmente si tratta di una marea di dati che riguardano le persone che girano all'interno di queste città, che vengono convogliate e quindi studiate e analizzate. Tendenzialmente si dice che questi dati siano anonimi e riguarda soltanto, tra virgolette, la tendenza intesa come tendenza matematica. Però qui è un problema che per fortuna se ne inizia a parlare, e quindi immagino che verrà risolto in qualche modo. In ogni caso, vabbè, ma lì basta Google Maps già, voglio dire, sì, basta anche Google Maps, ma qua la differenza è che ci sono proprio i sensori, quindi vuol dire che viene controllato a livello di centimetri, proprio per intenderci, come viene gestita anche, che non so, la potenza elettrica, i flussi di traffico delle persone e via discorrendo. Quindi diventa una cosa molto più come si dice, concentrata, perché hai un sacco di dati e li gestisci, e quindi riesci anche a trovare come si dice, una soluzione buona in caso di catastrofe, per dire, ma può anche avere un altro risvolto della medaglia che non è piacevole solo a pensarci. Comunque, questo sarà un problema che verrà gestito poi in futuro, e la cosa interessante è che non c'è solo Shanghai, ad esempio, che viene utilizzata come gemello digitale. Un altro esempio è Singapore, che ha integrato le informazioni su edifici, trasporti, parchi, sistemi di drenaggio e altro, e consente quindi agli operatori urbani, che quindi si, inteso come operatore urbano è quello, il tecnico che permette, che ha una gestione della, di queste parti tecnologiche della città, di monitorare praticamente tutto, dalle operazioni di costruzione del traffico alla manutenzione dei ponti, e persino, come vi dicevo, di simulare inondazioni per la pianificazione dei disastri. Sì, ricordiamo anche che Singapore è una di quelle dittature che vengono considerate illuminate, certo, perché comunque poi alla fine lì dove ci sono i soldi stanno tutti bene, quindi sono quasi tutti contenti, insomma. Vai, sì, scusa. Diciamo di sì, quasi tutti contenti, come si dice, in questi casi con la panza piena se la mettono di meno, tende, diciamo, a coprire un po' le falle, esatto, delle macchie, tanto, esatto, che falle. E tornando invece al modello di Shanghai, in questo momento è uno dei più avanzati finora, ma molte altre città, come vi dicevo, stanno investendo in cloni virtuali appunto per raggiungere questo risultato. Un attimo che stavo pensando una cosa, per quanto riguarda invece il tanto rendering, tutti i link li trovate poi sulle note dell'episodio, ho già rintracciato tutti i link, così almeno. Per tornare invece a Unreal Engine, in questo caso l'intera simulazione è stata divisa in segmenti di 2 km quadrati che vengono caricati e scaricati in base alla visuale delle telecamere, che anche questo è un trucco spesso utilizzato nei videogiochi, come sapete. E un'altra cosa di cui volevo parlare, con questo concludo perché insomma non ho già dette di ogni, nel in Nuova Zelanda è stato anche visualizzato e utilizzato con Unreal Engine lo sviluppo di un modello accurato tramite GIS, che come sapete permette di agganciare delle informazioni al territorio, essenzialmente, della città di Wellington, con l'aiuto del consiglio comunale. Essenzialmente ora hanno in programma di integrare i dati live delle Smart City per creare un vero e proprio gemello digitale, come vi dicevo prima. Ma non solo questo è uno delle possibilità che viene utilizzato Unreal Engine, come abbiamo visto, partiamo da Twinmotion per gli architetti come me che ne fanno un uso per i propri rendering, fino ad arrivare a dei gemelli digitali, ma c'è che si è inventato anche di fare delle agenzie immobiliari decisamente all'avanguardia, che utilizzano tecniche di realtà mista per promuovere delle operazioni immobiliari. Quindi cosa hanno pensato questi geni del crimine? Hanno realizzato un modello tridimensionale della città, dell'area che gli interessava, di circa all'interno di un cerchio di circa 5 metri di diametro. Quindi voi immaginate questo tavolo enorme con la città realizzata in come un modellino. E poi ci sono delle grandi pareti video che circondano la visualizzazione del modello e sincronizzano le viste 3D in tempo reale, e queste viste guardano la città da qualsiasi piano e in qualsiasi singolo edificio, mentre il modello fisico mostra un cono di vista proiettato dallo stesso edificio. La cosa è davvero spettacolare, quindi voi immaginate che avete questo, una visualizzazione mista che combina replica di stampe in 3D con la mappatura del progetto e le tecnologie di rendering in tempo reale. La cosa è molto particolare perché, come vi dicevo, è così particolare che si sono addirittura dovuto creare delle applicazioni che apposite da mettere sugli iPad che permettessero la gestione di tutto questo popò di cosa. Questa popò di cosa informatica si traduce in qualcosa che si appoggia a 12 telecamere diverse su 12 proiettori a garantire che tutto sia sincronizzato, ma soprattutto che sia tutto ben dettagliato nel frame in modo tale che non diventi sfocato. Quindi cosa hanno usato? Hanno usato ovviamente Unreal Engine e delle schede Nvidia Quadro e la tecnologia N-Display, che permette essenzialmente di sparaflesciare, diciamo così, 24 milioni di pixel che vengono proiettati e renderizzati a oltre 90 fotogrammi al secondo. Quindi capite che è abbastanza ingente come quantità di roba che viene buttata fuori, anche perché viene buttata fuori a 4K, e quindi la cosa diventa davvero tecnologicamente interessante, una bella sfida anche da questo punto di vista, perché comunque questo questo sforzo non è soltanto utilizzato per gli operatori immobiliari, ma capita spesso che venga utilizzato anche dalla classe politica oppure da chi vuole fare un nuovo edificio, va lì e cerca di spiegare cosa vuole fare, come potrà diventare, e ovviamente grazie al nuovo edificio che viene trasferito a questi server e quindi proiettato direttamente sul modello tridimensionale, si riesce anche a capire, grazie a questa realtà mista, quello che succede. Indubbiamente le possibilità che lascia Unreal Engine per questo tipo di cose dal punto di vista, io parlo architettonico, lascia assolutamente sbalorditi, e io sono qua che mi sfrego le mani per capire come andrà il futuro, perché ci sarà solo più da ridere. Sono passati i tempi in cui il sottoscritto magari vi lanciava un rendering la sera e cercava di vedere cos'era uscito la mattina, e quando andava bene non bestemmiava perché magari il computer si era bloccato oppure perché c'era una luce sbagliata. Insomma, quante ne ho viste pure io, in effetti, a volte quando facevo alcuni lavorini. Beh, questo è un po' un discorso. Lobby Frontale in chat dice: questa roba è cyberpunk a manetta. In effetti, mi piacerebbe trovare, anche se devo trovare il contesto, forse non so se Ludico Forum sia il teatro giusto per poter fare questa cosa, perché io faccio sempre una serie di ragionamenti relativi a quello che è la digitalizzazione, la realtà aumentata e la possibilità di utilizzare queste tecnologie a volte in maniera anche un po' più funzionale e utile per l'abbattimento delle barriere architettoniche. E quello è interessante. Il sostegno, diciamo, e il supporto anche a portatori di handicap, ipovedenti, sordi e via dicendo. Insomma, quindi insomma, perché io una quindicina, ventina d'anni fa sono stato in Svezia e mi sembrava di stare su un vulcano, cioè nel senso su un altro pianeta, un'altra civiltà proprio, cioè nel senso e mi fa anni luce. Mi fa impressione questa cosa, il fatto che non ci sia una coscienza sociale, no, su questo discorso, perché oggi la tecnologia purtroppo oggi è strettamente legata all'economia di mercato, no? E quindi forse anche inevitabilmente. Ma troveremo, magari ci ragioneremo noi di Runtime, troveremo il modo, il dove parlare di queste cose qui. E invece mi è venuto da ragionare un secondo, e chiamo un attimo Simone in causa e poi andiamo da Alex, sul fatto che guardando tutti questi scenari digitali in 3D, no, con il sole, gli effetti, insomma, tra virgolette, fotorealistici, mi è venuto in mente l'ultimo Flight Simulator, che quando tu lo vedi così a primo occhio, no, che quando vedi le scene con l'aereo in volo, dici, beh, i coglioni, guarda che hanno fatto, poi ti avvicini alle città e vedi delle cose, tipo delle anomalie grafiche indecenti. Non so se te ne sei occupato, se hai dato un'occhiata, ti sei dato delle motivazioni. Sinceramente non li ho mai visti, però vista la grandezza del progetto ci credo anche senza vederlo. No, perché loro dicono di aver utilizzato Google Earth, no, Microsoft, cioè l'equivalente di Google Earth, però di Microsoft, che non so come si chiama. Quindi loro praticamente hanno utilizzato la mappatura generale che dà quell'approccio, diciamo così, semi fotorealistico, quando tu vedi da lontano, perché vedi la terra, no, vedi tutto quanto, poi magari ti avvicini al Colosseo ed è una punta, cioè nel senso è una piramide, cioè per dite cose strane, ho visto cose assurde, insomma. Diciamo che atterrare su un Colosseo non dovrebbe essere legale. No, però se lo, però se lo sorvoli, diciamo, insomma, lo vorresti vedere carino. Sì, sì, sì, chiaro. Vabbè, era quello che avevamo detto prima, anche Roberto l'ha ricordato, il fatto dei dettagli che devono essere adeguati alla dimensione su schermo. Chiaramente un oggetto enorme ha bisogno di un sacco di dettagli, però cioè, nonostante, se un oggetto è pensato per essere visto da lontano, per quanto grande possa essere, comunque sarà in una qualità scarsa. Se poi tu ti avvicini e questo sgrana, cazzi tuoi, cioè, c'è poco da fare. Esatto. Alex, che ci racconti? Che vi racconto? Allora, sembra che sia venuto il momento di parlare del Virtual Production Set che hanno utilizzato pesantemente sul set di The Mandalorian, molto nella prima stagione e moltissimo nella seconda stagione. In pratica è stato costruito all'interno degli studi cinematografici in cui hanno girato The Mandalorian una sorta di mezzo, quasi completo ciclorama, se non sbaglio a 270 gradi, composto essenzialmente da una vagonata di schermi LED che appunto prendono due terzi del giro completo e hanno un raggio di diversi metri, tanto, in modo tale da poter ambientare una scena. E questi schermi sono interessanti perché sono collegati a 4 o 5 computer contemporaneamente per la renderizzazione di questa scena, in modo tale che proiettano su questa superficie, che vi ricordo è persino curva, quello che inquadrerebbe la telecamera oltre questa superficie stessa. In questo modo si può realizzare in tempo reale uno scenario qualsiasi con la stessa prospettiva della camera, e questo ha un grandissimo vantaggio che essenzialmente abbatte i costi di post produzione, perché non c'è più necessità di green screen, perché le cose vengono girate effettivamente in camera. E al contrario della rear projection o front projection, la proiezione frontale o posteriore, che veniva utilizzato già dagli anni 50, in questo lì praticamente la camera doveva stare fissa perché tutto doveva essere fisso e in sincrono. In questo caso la camera è libera di muoversi anche con camera a mano, perché il tracking della camera viene fatto in tempo reale con un motion tracking molto, molto avanzato. In questo modo quello che viene proiettato dietro è automaticamente in sync con i movimenti di camera e anche con la deformazione prospettica, e anche nell'ottica del fatto che lo schermo non è dritto ma è anche curvo. Questa è una cosa rivoluzionaria e tutti quelli che lo usano essenzialmente dicono: questa roba qua ci cambia la vita, perché effettivamente puoi permetterti di arrivare sul set più tardi, perché devi a questo punto costruirti l'ambiente virtuale in cui svolgi questa scena, però ti puoi permettere molto di avere molto meno tempo di esposizione nella fase di post produzione, perché non devi fare più chroma key, non devi più bucare il soggetto, non devi più creare l'ambiente dopo, non devi fare matching di camera, matching del colore. In pratica è come aver costruito una vera scenografia, però senza averla costruita. Il che non significa che le cose siano più semplici, perché per certi versi tu devi pensare alla scenografia e al set virtuale prima ancora di andare a girare. Il vantaggio del green screen è: non so ancora cosa ci metto dietro, intanto lo giro, poi dopo ci metterò qualcosa. In questo caso devi tornare a fare il cinema come si faceva negli anni 50, 60, 70, cioè quello che giri è quello che ti porti dietro, per cui si sbilancia di più il lavoro di preproduzione, dove la preproduzione arriva a realizzare degli oggetti finiti, definitivi, e il lavoro di postproduzione è molto alleggerito. E questo è anche un grande vantaggio, perché il fatto di avere uno sfondo che ha lo stesso ambiente virtuale, che è la continuazione dell'ambiente reale in cui si trovano gli attori, fa sì che anche l'illuminazione degli attori sia già perfetta, non c'è bisogno di reintegrarla o di cambiare il fatto che si sta girando sul verde, oltre al fatto di non dover più bucare. Certo, è compatibile con l'ambiente, certo. Esatto, aiuta anche gli attori. Sì, aiuta gli attori, perché essenzialmente si trovano già dentro l'ambiente, non devono immaginarselo perché già lo vedono. Dicevi, Simone Gusella? Ma dico, soprattutto con tutte le parti cromate del Mandaloriano. Sì, che sono la cosa più difficile. Allora, Carlo ci chiede internamente quale film recente ha usato questa tecnica oltre a Mandalorian. Allora, la prima incarnazione di questa cosa, ma non era con la camera che faceva tracking, è stata in nel film Oblivion, quello con Tom Cruise. Ah, di, bello, non mi ricordo come l'attore, il regista, che a me non è piaciuto molto, ecco. però essenzialmente, dato che si svolgeva gran parte del film si svolgeva in questa casa di vetro sospesa sulle nuvole, girare in green screen sarebbe stato quasi impossibile, perché bucare il vetro significa praticamente renderlo completamente trasparente, e non bucarlo del tutto significa avere i riflessi, per cui sarebbe stato un casino. In questo modo hanno girato tonnellate e tonnellate di video a tipo una risoluzione tipo 16K, mantenendo insieme tante riprese, con una quarantina di videoproiettori. Allora si usavano i videoproiettori per fare questo tipo di cosa. Questa tecnica qui del ciclorama interattivo credo di averla vista in spot televisivi, in dimostrazione, ma non so se è stata usata anche in un altro film. Tu, beh, Simone, ti ricordi Simone, qualcosa? Simone citava Rugone diceva che... No, Rogue One è diverso. Rogue One è stato il primo film in cui sono state realizzate proprio delle scene che sono state renderizzate con Unreal Engine invece che con i tool soliti dell'Industrial Light & Magic. Vabbè, che è stato proprio un vero esperimento. Lì stai nello spazio, già è più facile. No, erano scene con i trooper. Ah, ok, scusa. Posso? Vai, prego. Simone? Vai. Ho messo un fotogramma di un film recente in chat che ha usato questa tecnica. No, è quello italiano? Sì. Allora, no, ragazzi, è meraviglioso. Allora, ragazzi, io l'ho sempre detto. Questo io l'ho sempre detto. Vacanze su Marte. Esatto, sì. In vacanze su Marte hanno utilizzato l'Edwall. Che poi, ragazzi, io devo dire, mo, al di là di tutto, no? Cioè, l'utilizzo dell'Edwall e l'utilizzo della Real Engine, io devo dire che tante volte, quando abbiamo visto dei film, ovviamente con le tecniche tradizionali del compositing, magari con scenari precalcolati o roba del genere, quante volte abbiamo detto vabbè, ma cazzo, questo è tutto. Io veramente questa volta su Mandaloriano, ragazzi, non mi rendevo conto di questa cosa. Cioè, è vero che io forse faccio anche poco testo, da un certo punto di vista, però io non mi rendevo conto che c'era questo. Non me ne sono reso conto in alcune scene. Poi ho guardato il making of e dicevo anche quello non era vero. Capito, cioè, ragazzi, a me mi sembrava che era tutto in location, cioè cose veramente. E chiaramente questo avvantaggia sia i tempi che i costi di produzione, no? Come dicevamo prima, insomma, questa è una cosa veramente affascinante. Guarda, i tempi di produzione sono avvantaggiati non tanto perché ci metti meno a fare la post produzione, quanto perché ci metti di meno a cambiare location. In pratica il set dressing, anche, cioè, certo. Gli oggetti da mettere sul set sono veramente pochi, perché poi tutto il resto è virtuale, per cui riesci a girare una cosa la mattina, una cosa la sera nello stesso certo. Set, mentre di sotto magari impiegavi un giorno per smantellare una scena e ricostruirne un'altra. Soprattutto per Disney, diventa molto più snello. Soprattutto per Disney, che ha annunciato già 7-8 serie Star Wars nel prossimo anno e mezzo, quindi insomma è chiaro che lì sono cioè che cazzo la manetta, cioè nel senso devo andare. Beh, Disney secondo me ha fatto questa buttata allucinante di dire facciamo 10 cose di Guerre Stellari nei prossimi 3 anni, è perché nel 2020 hanno avuto un crollo giustamente, nel senso ce l'hanno avuto tutti, cioè al cinema la gente non c'è andata più perché non esistevano più i cinema, esatto. E probabilmente non esisteranno più, questa è la cosa che un po' mi è agghiacciante. Ce l'ho anch'io, per cui hanno detto dobbiamo cambiare il nostro modo di porci nell'universo, dobbiamo puntare tutto su Disney Plus e di conseguenza caliamo gli assoni. Hanno detto basta con i film di Guerre Stellari, forse ne facciamo uno con Tiki Waitika, ma se proprio se gli viene voglia qualcuno, e invece facciamo tre quattro serie televisive all'anno, allora, perché almeno lì abbiamo una, li concentriamo tutti lì, la gente è obbligata a comprarci. Disney Plus comunque funziona bene e è relativamente economico rispetto ad altre piattaforme, Netflix prima di tutti. Mi posso permettere che, cioè, visto la qualità, ma la qualità nell'atto d'amore anche del Mandaloriano rispetto agli ultimi tre film di Star Wars, grazie a Dio, diciamo, anche, no? Nel senso, sì, sì. Posso far uscire dal seminato? Dice, ho visto il 6 di gennaio, ho visto l'ultima puntata della seconda stagione del Mandalorian, che non mi ha fatto. Allora, devo dire che è una serie, sì, mi è piaciuta, ma non è che non vedevo l'ora di vedere un'altra puntata, nel senso l'abbiamo vista, e mia moglie guardava Iodino, come lo chiama lei. La cosa che ho detto è che quando l'ho vista l'ultima puntata, mi sono detto, se io avessi avuto 13 anni, cioè se questa cosa fosse uscita 30 anni fa, cioè io sarei morto dall'amore, perché era quella roba lì, era quello spirito, era il ritorno dello Jedi, proprio nel momento di massimo splendore per certi versi. Adesso secondo me la vivo come una cosa un po' lenta, un po'... Vabbè, siamo cambiati anche noi, io sono cambiato, ma forse, ma grazie al cielo, c'è una cosa che non parla più a me, parlerebbe al me di quando avevo di 30 anni fa. Sì, sì. Va benissimo, va benissimo, cioè sono contento che l'abbiano fatta, sono contento che l'abbiano fatta così, eccetera eccetera eccetera. Mi rendo conto che è una cosa che grazie al cielo appartiene al mio passato, sono quei tre film lì più altri tre un pochettino, e gli ultimi tre un pochettino ancora meno, e basta, nel senso sono contento che sia così, e sono contento che il mondo vada avanti, che ci sia una nuova generazione di Guerre Stellari di cui guarderò con grande interesse e con grande passione, però senza sentirmi tradito o rubato della mia infanzia. Quella c'è, ce l'ho e via. Però questa è una cosa che esula dal discorso di questa puntata. Ma infatti di questa cosa ne parleremo il 29 gennaio su Ludico Forum insieme ad Alex e compagnia bella, perché faremo uno speciale monografico chiaramente su Star Wars, che si intitola Storia di principesse, cavalieri e spade luminose, una cosa del genere, adesso non mi ricordo come è il titolo effettivo, però comunque poi sostanzialmente è una monografia di Star Wars partendo dal cinema ed arrivando poi a tutto quello che è l'aspetto interattivo e ludico dell'intrattenimento in generale legato al mondo di Guerre Stellari, che insomma non potevamo non farlo. E poi due settimane dopo ci sarà la stessa cosa su Indiana Jones, quindi preparatevi che sarà un fine gennaio e inizio febbraio bottis da orbi su Ludico Forum. Va bene, e Alex, poi c'era altro da aggiungere? Io mi sono un attimo perso, devo dire, oggi. Per quanto allora, fatto... tu mi hai chiesto effettivamente quanto possono cambiare il mondo delle produzioni anche dal basso. Secondo me sì, però non... quando si parla di cinema, di cortometraggi, eccetera, eccetera, è difficile pensare al one man band. Bisogna essere un piccolo esercito per farlo. Per cui è molto probabile che ci sarà un grande aiuto per chi fa queste cose in 3D. E che comunque non è che sono tante, c'è una piccola percentuale rispetto al totale. Invece dalla produzione 3D real time potrebbe cambiare il mio lavoro? Probabilmente sì, perché ne abbiamo parlato io e Simone Gusella, l'ultimo lavoro che abbiamo fatto insieme, ho detto che la prossima volta usiamo Unreal e ammazziamo i tempi di rendering e probabilmente ammazziamo anche un sacco di sbattimenti intermedi. E ammazziamo, sì, e ammazziamo famiglia rompendo bottiglia, chiaramente, un po'. Esatto. No, più che altro, ecco, sul discorso del cinema indipendente, sicuramente io parlo anche di quei piccoli team, insomma, che comunque cioè io ritornavo sempre al discorso di Dark Resurrection. Oggi, no, sarebbe stato un lavoro meno mastodontico, no, da quel punto di vista, anche dal punto di vista dell'impegno, dei tempi di lavorazione. Sai che alla fin fine John Knoll, che è stato il capo dell'Industrial Light & Magic per 10 anni ed è comunque l'uomo che ha scritto insieme a suo fratello Photoshop, per dirti, ha detto forse era Stu Mashwitz, vabbè, comunque uno dei due, ha detto, cioè, lo stesso tempo che impiegavo 10 anni fa per fare un'inquadratura lo impiego adesso, solo che adesso lo faccio 10 volte meglio, e fra 10 anni impiegherò sempre lo stesso tempo. Cioè, credo che un progetto mastodontico come Dark Resurrection verrebbe fatto nello stesso modo anche adesso, però sarebbe fatto 10 volte meglio, sarebbe recitato meglio, sarebbe la camera sarebbe stata migliore, cioè così, sarebbe stato comunque, sì, un livello più alto, perché comunque l'asticella si alza sempre. Certo. Ripeto, quello che ho fatto a suo tempo con The Stone aveva un suo senso, non ce l'avevo già allora, però oggi non avrebbe ne avrebbe ancora meno, cioè l'asticella si alza sempre. E il fatto che adesso siamo iperconnessi, io dico sempre, io grazie al cielo quando avevo 15 anni e suonavo la chitarra non c'era YouTube, se no avrei passato il tempo a deprimermi dal fatto che ci sono milioni di persone al mondo che la suonano meglio di me, e Bob lo sa anche lui. I giovani che oggi suonano, che sono giustamente per certi versi anche molto meno, ma quelli che suonano sono veramente delle iene, nel senso, per rimanerli dentro sono molto più bravi. Per dirti, la decima stagione di Masterchef, quelli che stanno cucinando sono già più bravi rispetto a quelli della prima stagione, ma molto più bravi. Cioè, l'asticella si alza sempre, di conseguenza i tempi sono essenzialmente gli stessi, ma la qualità migliora, ma perché migliora comunque la qualità generale, cioè gli effetti speciali che erano lo stato dell'arte al cinema 5 anni fa, adesso li vedi in televisione e già storci un pochettino il naso. Sì, io faccio un'altra, faccio un'altra riflessione e voglio, magari forse sei d'accordo con me, perché poi in realtà è una riflessione che nasce adesso da una considerazione che hai fatto tu prima, e che alla quale io fino a questo momento forse inconsciamente ci avevo pensato, però razionalmente, cioè in maniera proprio così esplicita, non l'avevo considerato. Il fatto che sicuramente oggi tecnicamente il lavoro anche a livello di magari di truppe indipendenti sarebbe qualitativamente superiore, però è vero che essendo il Covid ha cambiato tutto, cioè anche in questa cosa io devo dire che mi ha fatto impressione pensare al fatto che voi avete detto probabilmente i cinema spariranno, no? Perché è un po' una conseguenza di un qualcosa che oggi stiamo vivendo e di cui un giorno avremo la percezione di quanto ad ondate si rifletterà su tutto quello che ci circonda, no? Chiaramente. Quindi, ecco, anche a livello di troupe indipendenti diventerà sempre tutto un po' più stretto, no? I passaggi, arrivare a certe posizioni di lavoro, a certe, quindi forse anche lo stimolo verrà meno, magari ci saranno alcune cose che miglioreranno proprio oggi, che magari fare un lavoro qualitativo potrebbe essere, tra virgolette, sempre tra virgolette sottolineato, più facile, diciamo così. Quindi ecco, insomma, non so cosa pensi di questa cosa, poi lo senti anche Carlo, che sentivo dietro che prima insomma ti dava ragione. Ti do i miei 200, poi dopo lascio parlare gli altri. Il mondo è cambiato, punto. Basta. Faremo un sacco di lavoro per cercare di tornare indietro, ma non ci torniamo più per certi versi. Paradossalmente queste grandi multinazionali si sono mosse abbastanza in modo agile. Warner Bros. Ha detto: sapete che c'è? Tutti i film dell'anno prossimo li mettiamo anche su HBO. Così, ma proprio senza neanche tanto scalpore. Loro si sono adattate e i mondi le cose cambierà un sacco la comunicazione, e di conseguenza ci saranno alcuni lavori che saranno diversi, alcuni lavori che spariranno, altri nuovi che verranno fuori. Fare il cinema domani come si faceva 5 anni fa, sì, magari sì, però probabilmente il pubblico non sarà più lo stesso. Già non c'era più lo stesso pubblico di prima, perché al cinema ci andavamo io, Gusella e tutti voi di Runtime quando ci trovavamo per vedere Guerre Stellari all'Arcadia, che cosa che mi auguro che rimarrà per certi versi come una sorta di tempio in cui riscoprire certe cose che non si possono comunque vivere a casa, ed è giusto che sia così, che ci sia anche una sorta di sacralità, certo, della comunicazione audiovisiva. Cioè, per me il cinema è il cinema. A casa cerco di ricostruirmelo col videoproiettore, ma è non vorrei, ma non posso. Sì, sì, no, ma è chiaro che è così. E io posso dire che ho avuto la fortuna, almeno qualsiasi cosa succederà, ci sono stato anch'io, e quindi mi sono levato questa soddisfazione. Carlo. Dicevo, scusami, l'ultima cosa. La televisione è cambiata nell'ultimo anno. È diventato cinema. Più di una persona che conosco, e soprattutto una che conosco, che è un opinionista, che va tipo due volte a settimana negli studi Mediaset a registrare, subito mi ha detto: sai che c'è? Fammi comprare due luci e spiegami due come filarle, perché così posso girare anche da casa. Così se mi connetto non sono un cesso, sono guardabile, ho una bella luce, una bella audio. Cioè, questo tipo di cose è stata interessante, perché la Rai ha detto: sai che c'è? Durante il lockdown, il primo lockdown, quello di febbraio, marzo, aprile, abbiamo fatto un sacco di collegamenti da casa e non abbiamo perso un punto di percentuale di share. E allora sapete che abbiamo detto? Ma sapete che c'è? Statevene un po' a casa, visto che spendiamo 10 volte di meno con questo sistema. Per cui ci sarà un altro tipo di comunicazione, necessità di avere degli strumenti di ripresa personali molto più fighi. Adesso già ci sono quei telefoni, però magari il balzo in più sarà di integrare queste cose con anche la possibilità di produrre e post-produrre senza diventare matti, e probabilmente molte delle produzioni saranno produzioni di un altro tipo. Ci sarà molto meno cinema, sarà molta più TV, una TV diversa, e magari una TV che somiglierà più a Zoom che a Masterchef, per sì, dire. Anche se per citare una cosa che ho detto prima, vedendo però quello che stiamo vedendo in alcune serie, la TV che dato che il cinema da un certo punto forse si estingue, la TV lo scimmiotta di più. Cioè io vedo molte serie televisive che dal punto di vista proprio del feeling anche visivo assomigliano molto di più oggi a un cortometraggio, a un film, piuttosto che a una serie, per come eravamo abituati a vederla 10 anni fa. Insomma, questo è un po' il discorso. Vabbè, Carlo, invece tu volevi, no, sentivo che prima eri d'accordo su questa cosa. Sì, assolutamente. Volevo solo aggiungere due cose, ma in linea generale è quello che ha detto, è quello che ha già detto Alex. Ma il fatto che il mondo cambi è sempre cambiato, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quello che io pongo sempre, anche quando parliamo del passato nelle nostre trasmissioni, lo sai bene, quando facciamo le trasmissioni di archeologia informatica, io dico sempre: è vero che il mondo non è più quello di prima, ma non necessariamente quello di adesso, anzi assolutamente non è peggio, o non è vero che quello che io prima potevo fare adesso non lo posso più fare, perché comunque è anche vero che il mondo è cambiato, il pubblico si allaga, ci sono nuove tecnologie, quello che prima facevo in un'ora adesso lo faccio in un minuto, però il tempo per fare la stessa cosa qualitativamente ce ne vuole di più, perché la qualità è aumentata. Ma questo non è che scoraggia i ragazzi giovani dal provare, dal suonare, è aumentata la qualità in generale e i ragazzi sono tutti più bravi adesso comunque, ma si mettono in gioco esattamente come e tanto quanto lo facevamo noi ai nostri tempi. Sì, oggi questo è più c'è l'accesso alla tecnologia che permette una produzione qualitativamente superiore, ma è anche più competitiva anche il lavoro delle produzioni stesse, no? Quindi magari i ragazzi che riescono ad arrivare a un certo livello ci arrivano già con una certa base, magari, no? Assolutamente, ma la base è più generalizzata, cioè sono di più quelli che hanno quella base. Cioè il punto è che comunque il fare, comunque il mettersi in gioco, il provare, il divertirsi, anche tutto quello che noi abbiamo provato lo fanno e lo faranno le nuove generazioni di adesso, le generazioni che arriveranno nel futuro, e lo faranno in modo diverso. Siamo noi che, siccome siamo invecchiati, non abbiamo più la stessa voglia di fare che avevamo quando eravamo giovani. Non è il mondo che è cambiato e quindi non possono più fare quello che noi facevamo, lo fanno comunque, lo fanno in maniera diversa, ma lo fanno. E anche il cinema, sono d'accordo che sta scomparendo e che probabilmente più che scomparirà si trasformerà. Io non credo che scomparirà del tutto il cinema. Si è detto di tanti media che sarebbero scomparsi, quando è arrivata la televisione si diceva che sarebbe scomparsa la radio, quando è arrivata la radio si diceva che sarebbero scomparsi i giornali, pure siamo quando, qua sul Runtime Radio ragazzi quando è arrivato il cinema la TV avrebbe sconfitto il cinema, il teatro, via, certo, in realtà, okay, è vero, hai ragione. Il cinema ci sarà sempre, non è che si trasformerà, sarà qualcosa di diverso, sarà magari qualcosa vissuto più in maniera sociale, in maniera diversa da come siamo abituati. Magari ci saranno meno sale, meno film proiettati, ma con diverso forse tipo di maggiore qualità, di, no? Magari meno cinema generalisti, più IMAX, più cose, chi lo sa. Comunque sì, o magari più SE, che ne sai, perché magari potrebbe anche essere peggio, nel senso, uno potrebbe fare, immagino io, un film che termina a un certo punto e poi i finali vengono demandati alle persone sulle loro proprie personali esperienze ed esigenze direttamente a casa. Beh sì, se non sono stati fatti degli esperimenti dei film interattivi anche in sala qualche anno fa. Sì, comunque Lobby Frontali dice che lui è rimasto molto deluso quando ha scoperto che Star Wars è stato girato sulla Terra, lo so, capisco, e dice anche il momento in cui realizzi che Sant'Agostino ha fatto due live nella stessa settimana, lo so ragazzi, ma erano argomenti pregni. E poi la cosa bella è che siamo riusciti ad andare a parlare di tutto, insomma, tranne che dell'argomento, perché a un certo punto abbiamo un po' sdirazzato. Simone, vuoi concludere con qualche tua considerazione o cose che magari non hai detto relativamente, ovviamente, sempre a engine, intrattenimento, 3D, cazzi e mazzi? Ma in realtà non saprei cosa aggiungere, però mi raggancio a quello che stava dicendo prima, non mi ricordo se Alex, ovvero il lavoro, cioè quando ha tirato in ballo la Rai nelle produzioni, diciamo, casalinghe con le videochiamate, sì. il lavoro in generale, anche grazie paradossalmente a questa pandemia, sta cambiando veramente. C'è uno spostamento dall'ufficio alla casa che devo dire mi incuriosisce un sacco. Così c'entrava niente con la puntata. Diciamo che in alcuni lavori è cambiato poco, il fatto che è chiaro, se sei un tornitore, un panettiere, certo. Lì diventa più complicato. Chiaramente. Va bene, Roberto, invece tu hai qualche considerazione finale o c'è rimasto qualcosa che magari era uscito fuori dalla scaletta? No, in realtà non ho poco da aggiungere rispetto a quello detto, che tra l'altro abbiamo toccato un sacco di argomenti. Quello che stiamo assistendo, tornando su Unreal Engine, è appunto questa sovrapposizione di un motore di gioco che doveva fare solo il motore di gioco, che ha incominciato ad espandersi a macchia d'olio in tutti gli ambienti. Abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di architettura e chissà fin dove arriverà, nel senso che le possibilità che permettono questo tipo di motori grafici, anche in considerazione del fatto che continua a esserci sempre più evoluzione e per fortuna le cose che vedremo saranno ancora stupefacenti, credo, e quelle che abbiamo, di cui stiamo parlando oggi, diventerà, come si dice, aria fritta, cose viste, riviste, e che diventeranno la normalità, come per esempio l'abbandono completo del green screen nel cinema. Potrebbe essere il futuro, e quando ci guarderemo dietro tra 20 anni, diciamo, ma chi cacchio ci aveva voglia di usare il green screen a scontornare tutto e a mettere un altro sfondo, e soprattutto tutto sto tessuto verde dove andrà a finire? Questo è un po' anche la, infatti, anche quello c'è pure un problema ecologico, capisci? No, è vero. Che poi, tra l'altro, io vedendo uno degli short track dell'altro anno, Calypso, cioè, a un certo punto c'è lui che vede una proiezione, no? Vede un film, un classico, tra l'altro, un musical degli anni 50. Però lo vede praticamente con questo proiettore che lo riproduce tridimensionalmente, no? E io pensavo nell'aria, esatto. E io ho sempre pensato, cioè, nel senso, se fosse così oggi questo non sarebbe cinema. Poi in realtà io mi sono sempre, dopo ho fatto un ragionamento dicendo, il cinema non è nient'altro che una espressione, anche un linguaggio fatto di immagini, luce, suoni e parole e musica. Quindi alla fine qualsiasi cosa che sia rappresentativo di un motion, diciamo, di un movimento in quel contesto lì, è comunque un'opera cinematografica. Sarà diverso, ci abitueremo probabilmente a tutto quando vedremo delle nuove forme di intrattenimento che prima o poi probabilmente arriveranno, ma anche quelle che si stanno trasformando adesso. Noi magari quelli magari della mia età faranno un po' più fatica a riconoscere determinate cose, ma poi ci abitueremo a tutto e tutto sarà bello come era bello prima, perché se non c'è poi l'entusiasmo, no, del vedere le cose così come del realizzarle, alla fine siamo spacciati, insomma, è una brutta storia. Alex, la tua conclusione. La mia conclusione è buonasera. Andatevene tutti a cagare. No, Credo che sia stata una delle puntate più tecniche in cui abbiamo sviscerato più argomenti e anche spaziato da vari ambiti, per cui c'è ben poco da aggiungere se non grazie di averci ascoltati fino a qui. Carlo? Buonanotte. Gliela facciamo più. Ce la facciamo più. Se avete resistito fino a qua, siete degli ascoltatori modello. Vi ringrazio. Madonna, abbiamo fatto puntate ben più lunghe di queste. Allora, ragazzi, io ringrazio e saluto Simone Cusella. Ciao, grazie a voi. Allora, Simone Cusella, che insomma tornerà, insomma, a far parte del team ogni tanto, non avrà tempo, perché chiaramente, da quello che abbiamo capito, in effetti penso che sia un po' il tempo più il problema che la voglia, chiaramente, e poi il microfono, insomma, anche quello è una cosa abbastanza importante. Sì, potrebbe aiutare. Si è messo agli atti che se non era una puntata sulla Unreal Engine, col cazzo che ti ascoltavamo con questa modalità, ti cancellavamo proprio, esatto, insomma. Ringrazio e saluto Roberto Marin, ricordiamo Snap Architettura Imperfetta, cercatelo ovviamente tra i podcast di Runtime su Spreaker, anche lì iscrivetevi, mettete like alle puntate, ascoltatele, scaricatele, perché è comunque un podcast non soltanto di architettura ma anche di tecnologia, e chiaramente se poi siete interessati all'argomento veramente è vasto, è un podcast vasto con argomenti in continuazione e anche spunti pure sulle note dell'episodio che sono importanti. Grazie Simone per i complimenti, ascoltate i consigli, andatevelo a ascoltare, io cerco di metterci del mio in questo podcast e spero che vi piaccia. Intanto volevo ringraziarvi tutti quanti perché la puntata è stata davvero interessante, non solo perché ero qua con voi, ma soprattutto perché sentivo quello che dicevate ed era interessante. Io facevo anche l'ascoltatore oltre che lo speaker, e quindi complimenti a tutti e grazie per avermi invitato. Figurati, tornerai, so che ti sei prenotato per un'altra puntata, non diciamo, poi dopo ritorneremo, e ovviamente il mio compagno, insomma, da oramai tantissimi anni nel mondo dei podcast, Alex Raccuglia. Compagno dal campo e dalle officine. Esatto. Tecnopills e Summa MDB Summer Radio. Ricordatevi, anche lì andate a cercare i podcast. E poi ricordatevi. Tra l'altro, per Summer Radio sto per preparare la puntata più difficile della mia vita. Ah, lo diciamo qual è? No, non diciamolo ancora, diciamo, altro, è scritto nel calendario, per cui so che ho una data di consegna. Esatto. E le canzoni le ho già tagliate fuori, adesso è un problema di fare la documentazione. Perfetto. Io aggiungo che c'è anche Caric 5, più tutti i vari replay per Summer Radio. Hai ragione, adesso vediamo di farne una all'inizio di febbraio con te, e invece questa qua a fine febbraio. Ce n'è di roba, piano piano facciamo tutto, ragazzi. Oh, ma non c'è. 2020-2021, il primo ascoltatore che si lamenta, gli bruciamo la linea internet. Quindi su questo veramente non ci potete dire niente. Carlo Sant'Agostino, Archeologia Informatica, che torna la prossima settimana di giovedì con una puntata dedicata al cinema e ai computeroni cattivi, che insomma, con Roberto Tomaiolo. E ovviamente l'altro ieri c'è stata questa bellissima puntata Ciao 2020 con Michela De Paola, che veramente ha riscontrato un sacco di successo e continua a essere downloadata, vuol dire che proprio è il momento, insomma. Lo dissi io al Frassino, ma lui non rispose. Non rispose, esatto. E comunque, vabbè, plum plum anche un po'. Va bene, detto questo, vi ricordo che domani sera, ore 23:30, Runtime by Night con tutto il team. Forse non ci sarà, o chiaramente Umberto, perché come abbiamo detto è diventato tripadre. E domenica, invece, alle 21 ci sarà Mono Michela con una puntata dedicata alla musica e ai libri, molto, molto interessante. E poi lunedì ricomincia tutte le puntate normali, da Tecnopills a Buongiorno un cazzo e OGM la sera. Quindi ragazzi, detto questo, ci sentiamo alla prossima occasione. Ciao a tutti. Ciao. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.